Avanti. Antonello, sei tu? Sì, via. Ciao Antonello, era acceso qua. Ho sentito un fidanzato, credo fosse doppio room, invece eri tu, dai. Ebbè, tutto bene Antonello. Sì, tutto bene. Si sente il lecca lecca multiplo. Ripete completamente la frase. Sto usando quell'americano. Americano? Hai detto che marca? Dove c'è nel Grand Canyon? No. Magnum 19. Ecco. Registrato. Ah, le 19 avevi tu, non me ne ricordavo. Ciao, Dubrofè. Avanti al break. Come? Santiago 7 e anche oltre, radio 3, 4? Ma Franco, sei tu? Sì, sono io. Sì, arrivi bene anche così, ma con l'altra certo arrivi meglio. Già, riprendi tu, perché io sto qua... Oggi giornata piena, ho fatto roba, manutenzione alla macchina, ho cambiato batteria, è andato qua, là, poi devo andare al medico, quindi adesso mangio, poi mi riposo e poi alle 7 esco. Allora riprendete voi per il momento. Dai capo, scusate. Ciao Marco. Antonello, pure, sì. Ehi, si sta tarando la gabbo. Ciao Marco, che c'è lì in frequenza? Io ero di passaggio, c'è Gianni Rubrofetta e Pomponio per adesso. Dai, io vado a scaldarmi la pappa e poi la sette devo uscire a piedi. Palle. Cappa, va bene, dai, ciao, buon pranzo. Ciao Gianni, ci sei? Ciao Franco, ben ascoltato, dimmi tutto. Ehi capo, no, poco fa stavo provando un 48. Un'ala 48 mi hanno regalato poco fa. Cioè, poco fa, stamattina, ed è il nuovo loro, però non c'è ricezione, non c'è. E, niente, esce tranquillo, perché adesso lo provo, poco fa ero con quello, però non ho ricezione. Cappa, ho capito. Quindi cosa ti serve? No, niente, pensavo che c'era Antonio Pomponio per vedere se sapeva qualcosa. Boh, è entrato, ha provato un microfono con l'eco dal Grand Canyon e poi è sparito, boh. Allora, aspetta, adesso lo attacco a vedere, provo a parlare, poi mi dici qua, me lo dici perché non ti sento là, e vedi un po', mi dici come esce. Cappa, sono qua. Io pensavo che c'aveva fino al concerto, invece poco fa esce, ma non dice. Probabilmente o tra due finali, questo uno di entrata e uno di uscita. Vediamo un po' poi adesso attacco l'altro. Cappa. Sì, Santiago 7 è arrivato qua. Oh, ok, com'era già? Guarda, segnale Santiago 9, quasi 9.10, tra i 9.5 e i 9.10. La radio è chissà chi è, un po' scatolata. È il microfono originale, il suo originale. Non ha amplificato, non ha niente, perché non gli ho attaccato niente ancora. Cappa, ma comunque qua, ti ripeto, sei tra i 9 e 9.10, laghetto si è in mezzo, tra i 9 e 9.10. Allora gli sta uscendo, la radio esce. E mi interessava solo quello, mi interessava, per vedere che pensavo di aversi bruciato il finale. Adesso non lo so, se il 48 c'è anche un finale di uscita e uno di entrata. Boh, magari ha preso qualche sbalzo di tensione, oppure, quindi quindi magari è probabile che sia danneggiato qualcosa. Ah, boh, non lo so, perché era l'apparecchio che questo che non funzionava, però io stamattina cosa ho fatto? L'ho preso, l'ho acceso e l'ho lasciato acceso, non l'ho neanche toccato, neanche la portante ho schiacciato, sino l'ho lasciato 3 ore così, poi l'ho provato. Beh, K. Beh, sicuramente avrà qualcosina da sistemare. Infatti, adesso vediamo un po' quando c'è qualcuno che ne sa un po' più di me. Ok Gianni, quello là non è rientrato, vero? È con pugno gli piace leccare. Boh, c'è una portante ogni tanto, qua su mi arriva a 9. Ma può essere anche roba stranieri, Ma, boh, vabbè, comunque, ascolta, ieri Eugenio, l'apportatores, mi ha fatto notare che praticamente con il rosmetro collegato, il rosmetro mi ciucciava il segnale, praticamente col misuratore attaccato arrivavo a Santiago 1, 1 e mezzo, l'ho scollegato e dice che arrivavo 5/6. E allora c'è qualche problema, o nei PL, in qualche PL, in qualche attacco c'è qualche problema, cioè, perché ti ha rubato un bel di roba, ti ha rubato. E devi controllare i PL, devi controllare, e vedere, oppure il rosmetro se va bene. Cos'è? Il nuovo l'hai preso il rosmetro? No, me l'ha regalato Claudio, è un ZG TM999, infatti adesso è scollegato, se riesci a dirmi quanto arriva di segnale. Ma guarda, fino adesso stai arrivando qua, 7 modulati 8 stai arrivando, e la radio 5. K. Ti ripeto, io infatti una volta che ho fatto la taratura dello strumento, poi giustamente c'è il tastino on off, l'ho messo spento perché c'è la possibilità di accordare l'antenna e niente, quindi non pensavo che si ciucciasse così tanto segnale. Ma è un accordatore o un rosmetro? Guarda, è uno strumento, un misuratore che è anche l'accordatore d'antenna. Devi controllare bene, se tu vai con l'accordatore devi accordarlo, se no devi schiacciare il rosmetro e basta, perché è come il TM1000 più o meno, c'è un pulsante rosso, il mio, il TM1000 sempre della ZG, che quando lo schiaccio, quando lo schiaccio il rosmetro, e quando lo rischiaccio e lo tiro fuori, che rimane fuori, quello lì è accordatore. K, sì, questo ha l'interruttore acceso e spento con due monopoline con la scritta Tune. Niente, sì, l'avevo già fatta io la regolazione, avevo calibrato tutto. E quindi niente, una volta che ho calibrato l'ho spento e lo usavo solo come strumento, capito? Sì. Allora non lo so, c'è qualche problema, oppure, ma non penso che se te l'ha dato Claudio, non penso che abbia problemi, c'è qualche altra cosa. Ma adesso appena la giugana mi controllo con lo spezzone di capo, con i due spinotti. Magari c'è qualche falso contatto nella calza. Ah, magari c'è qualche nello spinotto, nel PL, magari c'è qualche saldatura fredda, c'hai anche, e devi guardare anche quello, perché a volte succede, capito? Oppure c'è qualche altro problema, c'è. Controlla bene il PL prima, non costa niente intanto smontarli e rifarli. Appena una giugana, smonto gli spinotti, a parte che è un po' lunghetto, quindi magari ne approfitto, l'accorcio e lo intesto di nuovo. Allora, un metro. Guarda, aspetta che lo sbroglio, c'è tutto, quanto sarà? Adesso lo apro, fai che sarà 50 centimetri, dai. Vale da un metro. Guarda, io ce li ho tutti da un metro. Così lungo? Come mai? Perché è lungo? Un metro non è lungo. Vabbè, c'è chi lo fa 50, c'è chi lo fa 80, chi lo fa 100. E uno, io me li ho fatti tutti da un metro, me li ho fatti. Beh, perché vabbè, lo strumentino è sopra il baracchino, quindi in teoria potrebbe, lo potrei fare molto più corto, capito? Ma guarda, non lo so se comporta, ma non penso che comporti la lunghezza, non penso che comporti qualcosa, però non lo so, bisogna chiedere chi se ne intende più di noi. Ho sentito un break sotto, avanti. Ciao. Guarda, la radio è incomprensibile, è a scariche, l'audio va e viene, fai un altro passaggio. Qua c'è solo la portante, niente radio zero, quindi non si sente niente. Scusa di nuovo perché devo... dimmi se mi senti. Capa, ora c'è, bassa ma c'è. Mi date un attimo di pazienza, che voglio fare due regolazioni, mi devi dire com'è adesso. Santiago 9, radio 3, dai, bassina, però insomma, adesso ti capisco. È bassina, no, perché mi è cascato il microfono a paura di averlo rotto. Guarda adesso, come mi senti adesso, grazie. Sempre bassina la radio, con chi ho piacere di parlare? Sierra Mike, buonasera. Ciao Sierra Mike, Gianni Rubloffetta, Lima Papa, Centro Storico, Sassari. Ok, grazie, comunque. Da dove stai modulando? Zona Porcellana. Kappa, la radio è comunque molto bassa, comprensibile, cioè ti capisco, però è molto bassa. Ok, grazie, devo rivedere il microfono, devo smontare tutto. Ci provo dopo, ciao. Kappa, a più tardi. Lo sentivi, Fra? No, negativo, zero. C'ho un po' di corremme, c'ho. Va bene, dai Gianni, ti ringrazio, dai, del piccolo corseo. E niente, ti devo mollare perché non ho farmi la luce. Devo andare, sono rientrato adesso. Ci sentiamo, magari più tardi. Ciao Gianni, e poi vediamo se c'è coso. Marco, ciao anche a Marco. E Alessio se all'ascolto, sempre che sono andato a leccare altre parti. Ciao, riprendi tu Gianni e fai girare. Ciao, correti per me. Kappa, ciao Fra, dai, buon proseguimento. Non so, ma sicuramente Marco si è allontanato. Alessio è in riparazione, quindi boh. Kappa, dai. E Marco sta mangiando. Lui sta, come si dice, non sta cenando adesso, sta pranzando. Ciao, dai, comunque, ci sentiamo. Ciao Franco, io sono un ruminante, ogni tanto ritorna su e ricomincio a masticare. Ciao Fra, ciao ciao. Fai bene, tanto, guarda, o mangi o non mangi, sempre così è l'Asturia, sempre cena e pranzo a mezzanotte. Come il film, spaghetti a mezzanotte. E meno male che ho il metabolismo alto, perché sennò sei diventato un bue. Ciao ciao comunque, dai, ci sentiamo. Ciao ciao ciao. E allora Lubrofè. Sì, Antonello si è allontanato, non lo so, forse sta provando apparati, eccetera. Io stavo sgranocchiando qualcosa. E poi. Edibus Calcantibus verso il centro, fare altre commissioni, sempre per gli altri, mai per me. L'hai sentito l'amico che è entrato poco fa da Porcellana? Sì, la voce era come quella dei nuovi omologati vergine, no? Un po' bassina, un'emissione contenuta, diciamo, no? Come può essere un omologato? Perché guarda che gli omologati, quelli in norme CE, no, gli ultimi fatti, sono chiusi di radio che non è idea, chiusi anche troppo, è come che io, anziché parlare così, parlassi a questa distanza, e di più non va. Kappa, infatti la radio era molto bassa. Adesso com'è, grazie? Eccolo di nuovo, insomma non è che sia migliorata tanto, Niente, spacciato il microfono, dai, devo cambiare tutto quanto, almeno ci vuole un microfono nuovo. Oh, non bassissima però, già. Sarà che ho alzato il volume un po', no, non è bassissima nemmeno, comunque. Ne ho sentite di più basse, sì. Non mi fate comprare un microfono nuovo che poi scopro che non funziona, ma dirò. No, ma potrebbe essere anche l'apparato che di fabbrica gli chiudono molto la modulazione M. Ho notato questa cosa, Gianni, cioè tu compri un omologato giustamente di fabbrica e tarato con la M molto chiuso per limitare l'emissione, no? Magari ne vai a comprare uno 400 canali e non si sa perché, per come, poi sono apparati di cui non c'è la controparte omologata. E nonostante tutto nascano non omologati, lo stesso hanno la modulazione chiusissima. Questa non l'ho capita perché. Per un omologato è ovvia la scelta, ma per un 200-400 canali a che senso ha chiudere completamente la modulazione M? Non lo so, vai Gianni. Ci potrebbero essere tanti motivi, quindi insomma, adesso pensandoci bene, insomma, potrebbero essere tanti. Adesso mi sono distratto, mi stavo guardando il cavo perché volevo provare a reintestare IPL per vedere e ricollegare lo strumento per riuscire a capire del perché mi ruba tutto quel segnale. Io i cavetti li ho fatti a occhiometro perché non so perché tutti i cavetti che vendono sono 45 centimetri, no? A parte che per le nostre frequenze, per i nostri cavi, per le ridicole potenze che abbiamo, non credo sia critica la cosa. Io me lo sono fatto a occhiometro, cioè che fosse comodo, che facesse una curva un po' ampia, che non fosse una cosa troppo risicata. E quindi ne uno che sarà mezzo metro, poco più, e l'altro è poco più di 90, forse un metro. A occhiometro mi già. Questo cavetto intestato me l'ha dato Claudio insieme allo strumento. Sarà lungo 55 centimetri, siccome lo strumento è sopra la radio e quindi lo volevo accorciare. Adesso che ho trovato la scusa, magari lo taglio e lo risaldo ben bene e poi lo riprovo. E prova già, dai. Poi se non ci sono io, trovate qualcun altro, dai, entrerà qualcuno. Dai, finisco di mangiare, se no non riesco. Ciao anche l'altro amico, buona serata. Andà bene, dai, si aggiorna Marco. Buon proseguimento. E io, ciao. Ciao, sono sempre Sierra Mike, come mi senti? Marco ci sei, sì. Santo Antonio, Marco è andato via. Me l'ha chiamato al telefono. Va bene, dai. Mi lascio un attimo in bianco che sto cercando di riparare questa parecchia. 10 minuti di quelli che ci metti di quelli che ci me lo devo aprire e non andare. Poi entro l'opera. Vabbè, un po' incasinato. Avevo difficoltà un po' a capire. Ascolta, è entrato Franco poco fa, ti stava cercando perché voleva avere qualche informazione su un Alan 48 che gli hanno regalato, esce in trasmissione ma non riceve nulla, voleva sapere qualche dritta nel caso. Allora, se esce in trasmissione, l'unico problema, ho l'integrato, audio, col condensatore, 16 volts, 1000 microfarad, attaccato all'integrato a pettine, KIA 7205 a meno che non sia 72017. Vabbè, è un problema adesso, ti ripeto, voleva parlare con te e niente, quindi dice che probabilmente più tardi prova a fare a rientrare di nuovo e vediamo un po' se si fa sentire. Ok? Ok, vabbè, diglielo comunque. O il KIA 7205P oppure il 72017. c'è poco da sbagliare. Se no il condensatore, se basta controllare se gonfio sopra, ci mette il filo sopra e 16 volt, 1000 microfarad, rimane proprio frontale attaccato all'integrato dove c'è lo chassis nella palazzo, capito? È un integrato a forma di pettine, c'è poco da sbagliare, capito? Se ha di quei problemi, vabbè, se va in trasmissione si nota subito, ci sarà un buco senz'altro. L'ha attaccato poco fa, in trasmissione esce, però non sente niente. Allora è quello lì, non ti preoccupare. Il problema è quello. Allora cos'è il microfono, non lo so. Il microfono c'ha la ricezione, non c'ha la ricezione esterna. Quindi potrebbe darsi anche che si sia tagliato il cavetto del microfono e quindi trasmette ma non riceve. Roba del PTT, giusto, no? Quindi praticamente quando fa sganciare praticamente potrebbe essere un cavo interrotto e quindi non, la radio non entra in ricezione. No, il PTT non c'è, è la questione del cavetto di alimentazione, cioè del cavetto che parte dal baracchino al microfono, tutto lì. Potrebbe essere un cavo spezzato, quello di ricezione, quindi non riceve, ma trasmette, capito? Mia Marco, mi avanti. Io volevo, non mi ricordo se Franco l'abbia specificato, cioè lui con lo Smither li riceve i segnali, perché una cosa è una cosa legata all'audio, no? Tipo cavetto ricezione, come ha detto Antonello, che non va, sai, nel TTT si può interrompere il cavetto che permette la ricezione, l'altoparlante è andato, perché se non vede i segnali proprio è il ricevitore morto, se non vede i segnali sullo Smither. Basta che faccia la prova, ci metti un paio di cuffie dietro dove c'è il baracchino, se ascolta in cuffia vuol dire che l'altoparlante è andato, ho fatto per comprarlo. Eia, anche quello. Sì, perché ci sono degli apparati, quelli che una volta si diceva commutazione elettronica, no? Non con relè, che toglievi, tuttora ne ho alcuni, togli il microfono e non riceve, però i segnali li vedi, ora Smith, vabbè. Ah, sono sazio. Volete il routino? No, grazie, già te lo faccio dopo io il routino, al limite. Ieri arrivavi a Platamona, mia Antonè, e ho portato il ricevitore con l'antenna buona, arrivavi a Platamona. Ma dove? 27 o PMR? PMR, anche Giulio arrivava bene, gli unici che sentivo, gli altri non arrivava. Perché ho staccato la direttiva, no, come si chiama, il motore della direttiva ho staccato, in pratica la faceva massa, capito, ho staccato perché ho messo l'antenna diretta al palo, se infatti tutti, se passi la vedi filato, l'antenna, aiuto a ascoltare tutti molto meglio di come l'ascoltava una volta, quindi in pratica l'attacco della direttiva era isolato, capito, la antenna non faceva neanche massa. Ah, ho capito, non stavo andando come dovrebbe, via. Bene. E ho portato un'antenna d'alto guadagno, cos'è, una 3x5 ottavi, mi pare. Sì, dovrebbe essere 3x5 ottavi, quindi in ricezione guadagno ne è abbastanza. Vai Gianni. Forse ce l'ha qualcun altro, so, davanti. Non c'è perché era mai, migliorato qualcosa. Allora, ho sentito, c'è un amico che arriva a 9 di segnale, però radio 1, saturissima. Adesso proviamo a alzare il guadagno del microfono, com'è? Satura, molto satura. Radio 1, non capisco quasi. Gianni? Neanche io, proprio niente. Proprio zero. Io ascolto ben male, avessi scritta. Strano, ma ascolto bene. Ho messo male forse. Adesso come? Hai imparato qualcosa? Allora, è sceso il segnale a Santiago 8, ma la radio è veramente bassa, anche più di prima, più di quando avevi fatto quei passaggi all'inizio, è più bassa. Ma dopo adesso si è migliorata? Adesso vedo un po', però non lo so. sono riuscito a capire la palla appena. Guarda un pochettino adesso. È uguale. Sì, ha migliorato un tantino, però questo segnale sale e scende, non ho capito quale sia la costante, via. Bene, dai, riprendete voi un attimo, che faccio roba qua, ciao. D'accordo, avanti, avanti. Probabilmente il sifono non è esattamente tagliato lì. Ah, un po'. Ho detto che probabilmente il sifono non è tagliato lì. Che segnale passa? Aspetta che attacco un po'. Ho il microfono amplificato, vediamo come mi ascolti, due minuti. Dunque, aspetta un secondo, adesso li abbassiamo un attimino, ecco, la portante, vediamo se mi verrà qualcosa. Guarda un po' come sto scendendo adesso, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Assordante e con prevalenza di toni bassi. Assordante. Questa volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, come si alza? Lo sai che rende male su quell'apparato, Antonè, perché si alza sul tipo, sulla il tornado, esce molto meglio, effetto presenza, lì è più poi c'è un effetto stanza terribile. Gianni, dilli cosa. Adesso guarda un po', è andato qualcosa, uno qua. Hai anche un innesco adesso. Un innesco? Non è possibile. Guarda qua adesso. Antonio, sei completamente incomprensibile, non si comprende nulla. C'è questo innesco sotto. Boh, non so cosa dirti. Ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, 1, 2, 3, 1, 3. Sì, pendente al cupo. Antonio, io ancora riesco a capirti perché questo riceve toni acuti in ricezione. Forse Gianni non ti capisce bene. Eia. Sì, comunque non sembra nemmeno c'è delta, è la verità. Non sembra c'è delta. Faccio un messo con me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, sì, si sente un suono che non si capisce se è il soffio dell'ambiente o un innesco, una specie di adesso non c'è più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esatto, adesso è sparito. Ah, ok, aspetta, il compressore. Mamma mia che emissione, Antonio, c'è una larghezza di banda di minimo 5 canali. Esagerato. Ma quello lo scoprire si muove. Secondo me lo scoprire a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché bisogna dire l'effetto che c'ha la galingo. Ha uno microfono adesso. Comunque è bruttino, Antone, la verità, non te l'ho detto, non sembra nemmeno il Sadelta. Chi è Radio 1? Chi è? Avanti. Sono sempre Sierra Maestra, volevo sapere, uno su che canale esiste? Canale 10. Adesso sono con il corpo normale. Però tende ai toni bassi, Antone, è vero. Eppure l'S9 dovrebbe uscire cristallino e di fabbrica c'è cristallino, non così. Sto usando la fattica, Eia. Allora l'amico si è abbassato anche di segnale. Infatti questo segnale sale e scende, però la radio è 1, è bassa, di nuovo bassa. No, non riesco a capire adesso perché c'è propagazione sotto anche, sta salendo un po' oggi. Addirittura, vabbè Gianni, tu non hai la banda laterale ancora. C'erano sul 34 i brasiliani a Bozzi, Santiago 9 in banda laterale, però quelli usano qualche kilowatt credo, quelli non hanno un limite, non hanno... Signore, facciamo soldi anche. Eia, ma sentivo sempre nominare Macaludo, lui deve essere il solito. Ah, sono del Portogallo, Mario. ma saluto, ma saluto, Mario del Portogallo. Sotto in lontananza sente gente, bassa bassa in mezzo al QRM, qua da me. Niente, l'amico è sceso il segnale, è proprio la radio è proprio inesistente. Eia, eia. Sì, oggi c'è un tantino in propagazione, però niente di che. Dovrebbe essere molto molto più forte, proprio da sentire segnaloni in FM, in banda laterale, anche in AM naturalmente. Sì, sta scarseggiando il 27 la propagazione, però adesso che scalda probabilmente migliorerà la situazione. Detto ciò, io decollo, dai, sono già le 6:15. Un bacione a tutti, ci sentiamo, dai, ci sentiamo, devo darmi una spidocchiata e uscire a piedi. Ciao Antonello, dopo un po' che non sto entrando più, non sto entrando tanto, diciamo. E Gianni pure, dai, ciao a tutti, ciao, riprendete voi. Sì, anche tu, certo, sto andando a fare la stagione ai cinesi, a farmi un po' di cose, di pittato, di quello che quando devo spendere i soldi prima di fine maggio, se no non li trovo manco dalla carta. Adesso vado e mi rispetto, ci sentiamo dopo. Magari invece anche un baracchino. Anda bene, ciao Antonio, ciao Marco, dai, buon proseguimento. Sì, ciao a dopo, dai, che vado a comprarmi quei pigiami, quello che mi servono. Siamo dopo, dai, sta un'oretta, tanto tempo di salire e scendere. Anda beh. Ehi, che poi non basta mai il tempo, porca miseria, devo ritirare il bucazzo asciugato, devo stendere il nuovo bucazzo. Va bene, a domani, ciao, ciao, ciao, ciao. Hola. Signori. Oye, ciao Fra, buona. Buona. Ascolta, Massimiliano. 48. Stavo provando poco fa, no? Che mi hanno dato. È nuovo, nuovo, solo che è tanti anni che non accendeva, poco tempo, là. E riceve, ma basso, basso, basso, uscire e esce. Non è che c'è qualche condensatore scoppiato? Beh, non lo so. Non l'hai aperto dentro a vederlo? No. Beh, togli, sono quattro viti, togli e controlla bene i condensatori, se no è finale audio. Buonasera. Poi Lubrofetta. È ritornato Franco, ho sentito Antonello poco fa, mi ha detto di, come ha detto Massimiliano giustamente, di dare un'occhiata ai condensatori, me ne ha specificato uno però non mi ricordo il valore, che è vicino praticamente a un integrato a forma di pettine, e poi controllare se lo smitter si muove in recezione. Sì, ma lo smetter si muove, se esce, l'hai sentito, no? Cioè la ricezione è bassa, così è. Troppa. Ma tu la senti la ricezione come? Dalla colonnina o come? No, dalla colonnina sua, la sento bassa bassa la modulazione. Prova a inserirgli un paio di cuffie, prova a vedere, ora si pure sia la colonnina che è mezzo andata. Potrebbe anche essere. Ma prima di Gosu, cazzo, non la dai, devi aprire, devi fare queste prove, non vedere. Si è aperta un po' la propagazione, sta entrando gente. È sempre bassa, ma... Anche con le cuffie? E allora devi aprire la radio a vedere un po'. E beh, se no così non comprendi nulla. Ora si pure che ci sia lo squelci. Lo squelci è aperto. Sì, lo squelci è aperto. Sì, ma non deve essere così. Hai provato a darle un colpetto così mentre per in ricezione sulla carcassa? Non ho fa niente. E apri a vedere. Per me c'è un integrato del finale audio mezzo andato, però non deve essere l'integrato, perché sennò non avresti ricevuto niente. E allora qualche condensatore lì, scoppiato, magari adesso come gli ha dato corrente, hai capito? Franco, prova a controllare il cavo, magari è qualcosa inerente al PPT, al tasto, allo spinotto, che magari praticamente se c'è il cavo interrotto praticamente non ti abilita la ricezione. Prova anche quello. Prova a vedere, se no piglia una fretta, magari riceve meglio. Ormai propagazione. Si è aperta di brutto. Poco fa sul 19 c'era un tizio francese, a quanto pare per qualche secondo mi ha sentito. Ma guarda che noi stavamo facendo propagazione l'altro giorno così con un vate importante, mi fate un conto. C'era tutta mezza Sicilia, sud Italia. Me lo immagino. Io ci ho provato, però poi l'ho perso. Sì, vabbè, che abbia il Napoli là. Gappa, mamma mia, devo andare a giocare. Com'è andata ieri la giornata, bene? È per quello che non ne ho voglia oggi. In questi giorni troppi lunedì ci sono. Troppe domeniche anche. Gappa. Quindi tu sei a posto con l'impianto, sì? In che senso, Massimiliano? Dico, stagionarie, Rosmet, adesso ho imparato a usarlo, sì. Eia, ieri con Eugenio abbiamo notato una cosa. Che praticamente, vabbè, ci siamo sentiti, è arrivato a casa e mi ha detto che... Mi ha detto, ma c'è qualche problema? Prima arrivavi in Santiago 5/6, adesso Santiago 1/1 in spiccioli. Infatti ha detto, guarda, non ho fatto niente, l'unica cosa è che ho messo lo strumento, l'ho tutto tarato, regolato e tutte cose, e niente. Infatti ho detto, guarda, per a scanso di equivoci levo lo strumento, gli rimetto l'antenna e praticamente ho ritrovato il segnale da 5/6, dai. E allora qualche PL saldato male, ho fatto male. Infatti volevo provare a parte accorciare il cavo che mi ha dato Claudio, così lo accorcio e gli rintesto i PL. Infatti sembrava strano che lo strumento mi ciucciasse così tutto questo segnale. E perché devi accorciare il cavo? Quanto è lungo? Sarà lungo 60 centimetri. Vabbè, qua lo strumentino è appoggiato sopra la radio, quindi non me ne faccio niente, è troppo lungo. Cosa c'entra? Lascialo stare, non accorciare niente, che poi non va bene, che c'è di passo impedenza. Lascialo così. Ma tu adesso ci hai attaccato lo strumento? No, negativo, adesso è diretto. Adesso praticamente c'è l'antenna collegata alla radio. Io attacco lo strumento, voglio avere questo segnale. Adesso sei 9 qua, dai. Prova a collegare lo strumento, voglio vedere questo segnale che cala. Dammi qualche secondo, dai. Ehi, ehi. Spagna, ascolti la Sardegna. Ok, buona tarde, de chi, operador Massimiliano nord dell'isola Sarda, QSL. Sì, amico della Spagna, arrivi molto bene qua, La mia città è Sassari, nord Sardegna. Ebbene, sai, vuoi collega un filo? Ma sì, ce l'avevo da un'altra parte. Adesso è collegato, dimmi tutto. Beh, dov'è questa perdita del segnale che c'hai? Non lo so, Eugenio ha portato Torres, mi ha detto che da 1 a 5 spassavo. Ma cosa che... Ma lui era embriaco, era cambeggioso. No, ha fatto il controllo da casa, insomma. Mi ha detto che l'abbiamo fatto praticamente in diretta. Stavamo parlando, ho spento un attimino, ho staccato lo strumento e dice che da 1 sono passato a 5. Ma scusa, noi in diretta l'abbiamo fatto. Tu hai staccato l'antenna dalla radio, ok? Hai attaccato lo spezzone, hai attaccato il rosmetro e sei 9 di prima e 9 sì adesso. Non ho visto questo calo di segnale. Massimiliano, cosa vuoi che ti dica? Eugenio mi ha detto, insomma, infatti mi ha detto cosa mi ha chiesto cosa mi era successo, cosa avessi fatto, gli ho detto guarda, ho attaccato un rosmetro, niente insomma. A scuola stazionale come si è messo? Tra 1 e 1 e 1 e 2. Quindi 1 e 1, dai. 1 e 1 e spiccioli, dai. Eia, nella norma, dai. Sì, a voglia, va perfetto. Non so cosa dirti, sicuramente magari poco a poco però qualcosina magari il segnale se lo ciuccia. Ma chi? Mandi, ma non si dice. Vabbè. È la prima cosa che mi viene da pensare, poi non lo so. Non so cosa dirti. Allora guarda, lascia la portante fissa che io ti faccio la foto, ok? Un attimo. Oh Gianni, lascia la portante fissa senza parlare. Scappa. Va bene, dai, per far guardati il cellulare adesso, ti ho mandato la foto, guarda quanto stai arrivando qua, a casa mia, eh. Avanti, Frank. Oh, una volta era una cosa, l'ho attaccato lo stesso, l'ho cambiato lo stesso nome della, dell'antenna, poi gli ho messo un altro microfono, non andava bene, ho fatto satanà, l'ho tolto, ma non l'ho portato. Ti metto il tuo, beh, quello non c'ha la ricezione. Quello c'ha la ricezione quando gli attacchi il microfono, Esatto. Sì, ma prima il microfono tuo lo adesso c'è la ricezione. E ho provato le qua. E so che non è preso il cielo, però non l'ho provato. Mi piace che non c'è, non penso che però. Vedi. Adesso la ricezione è buona e tutto, così. No, se sono i finali non esci neanche. Non arrivi a OK Givi. Con le altre, no? Già, ti abbiamo messo un po' di altra roba, che c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, c'è un po' troppo, Allora Gianni, hai visto il segnale? K, adesso lo strumentino l'ho staccato, così fa un raffronto. Lascia la portante, ma un paio di secondi tu. Ok. Allora, la prima foto è con lo strumento attaccato, guarda la seconda. Aspetta che guardo. Guarda per se ti cambia qualcosa. Boh, sono precisi. Allora, cosa cazzo metto lo strumento attaccato? Perché io lo strumento non ce l'ho attaccato. Tanti marchini che intengo qua. Vabbè, dai, per così poco non è successo niente, dai. No, non è successo niente, no, però, cioè che... Attaccando un rosmetro da 9 vai a 1, mi pare troppo strano. Comunque, ti ho fatto la foto me, con lo strumento e senza strumento, quindi. Eia, grazie. E beh, fra, risolto hai. Sì, sì. Infatti se volevo dire anche io non ci vediamo. Ho problemi enormi, oppure ho problemi qualche caffè. Se no, troppo non deve andare bene. Per rosmetro era chiuso in scatola, capito? Il suo rosmetro è nuovo. Lo vedo ancora. Però io ho accolto bene sempre, anche quando ho attaccato. Ma io uguale, ma fai che il rosmetro, ma esagerando ti può portare via mezzo punto. Un segnale, da 9 vai a 8, ma che a me non mi è mai successo una cosa del genere, ma no che da 6 a casa di Eugenio porta 1, dai, no? No, e poi è un corpo. Stesso, capito? Cioè le stazionarie sempre sotto controllo, ma poi lui che c'ha una radio, un rosmetro, non c'ha lineare, non va nulla, mi pare dopo questa una cosa. Ciao Fra, ciao, buona luce, buon tutto, eh. Dunque se ti stressa le tasche quel 48 fammelo sapere. E tanto conviene lasciarlo staccato, anche tanto il rubrimo è l'ultimo che fai. No, lo devo fare già, non ti preoccupare, è una di mia che tu lo dai. casa mi ripeto. No, perché adesso inizi con la propagazione, con quello non ci parli più. Non è quello il problema. Appunto, va bene, dai, vai a fatti la doccia, che se vendi Viagra e Roga, io fra. ciao, avanti già. Ok, ciao fra, dai, approfittane adesso, che sennò poi ti attacchi di nuovo al 48 e non ti lavi più, dai. Io, va bene, dai, va bene, comunque. Aspetta un attimo. Ok. Abbiamo fermato una cosa. Ma c'hai il parlascolta inserito? Perché sei sempre con l'innesco in agguato. No, è come mi avvicino, va. Vabbè. Devo parlare un po' più lontano dalla radio, capito? Ok. Perché ho notato che è sempre lì, pronto a colpire. Aspetta che la passo allora. Aspetta. Abbassatelo il parlascolta. Guarda, a vedere. Ora, 1, 2, 3, prova la radio. Sì, adesso va meglio. Oh, bastava abbassare per l'ascolta, molto ci voleva, cabo d'agnonica. La propagazione, stavo dicendo adesso, mentre stavamo parlando c'era uno forte sotto. Quindi mi ha tappato? Ogni tanto va e viene. E lì come copre quindi? Quanto ti arrivo io perché lì? No, coprire no. Comunque praticamente si sentiva sotto. Ok, zappa gaffa. Prova a parlare che ti provo a aumentare con un preamplificatore d'antenna per quanto arrivi. 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3, sound check. 9,15 mi aumenta. Da 9 vai a 9,15, KK. Meglio mi ascolti adesso. Mamma mia, sembra che ci sia un trapano vicino a te. Un trapano? Sento un rumoraccio. Ma non è solo un vento, vero? No, è un rumoraccio, un tipo trapano. Sicuro che sì. Adesso stai anche quasi, sei lì sull'innesco, ma hai toccato qualcosa sul microfono? Guarda adesso un po', 1, 2, 3. Adesso si è abbassata la radio e si è abbassato anche un po' il rumore. E adesso? Com'è? Adesso il rumore è sparito e la radio va benissimo. E allora lascio così, no? Va bene anche così allora. No, prima ti portavi appresso un rumore brutto. Ma rumore ventole o cose del genere, alimentatore, cose così? Boh, un rumore acuto, tipo un motorino acceso, un motore acuto. Perché stava passando la moto a carrozzella vicino. Non hai sentito nessun altro, no? Dico se ne so, come io ce ne faccio altri due passaggi, mi bocco un po' quello che fa. Bene, a parte Franco, è entrato Marco un attimino, ha fatto due passaggi lo stesso ed è andato a fare il compere. No, io ero con la radio accesa, ho fatto qualche fischio, voglio e bomba, mi ha risposto Franco. E poi sei entrato tu, poi non ho sentito nessun altro, ma... Non fa niente, tanto non è che una giova sei gana a fare in radio, la verità. Capisco. Adesso c'è un altro lunedì vicino. E adesso domani, venerdì, sabato, domenica. KK. E beh, ma tu come sei messo a radio? Sempre niente? Questa qua c'ho Massimiliano, cosa vuoi ti dica? Per adesso va bene questa. Ho capito. Va bene, dai. Già prima o poi arriverà anche alla radio. No, anche perché c'è un punto buono lì e... propagazione a 1000. Già me ne sto accorgendo, già la sento. un casino che vai solo AM, capito? Non c'è né FM né altri canali, quindi vabbè, comunque giovane, dai, non ci lamentiamo, va bene così per adesso. Tutta quella attrezzatura che ho visto in foto, roba così, non c'è più niente o c'hai sempre tutto? Ma l'impianto audio stai dicendo? E cosa di gioco, cos'è? Sei in mezzo a una cosa? Sì, vabbè, c'ho la mia attrezzatura personale, le casse, le console, i giradischi, tutte cose, sì, ce l'ho ancora. E beh, non fa già fin di nulla. Non ti ho capito, cosa hai detto? Ho detto, se non fa vendere niente. Per adesso non, non ho ancora, insomma, non mi sono deciso, mi preferisco aspettare un attimo. Sì, aspetta, passa il treno, già passa Sirio lì. E boh, qua, dite la verità, quella è forse l'ultima cosa a cui, insomma, l'ultima cosa che vorrei vendere, mi. Non lo so, mi, capito, perché magari ci potrebbe essere roba interessante. Lo so, adesso il mese entrante ho un matrimonio di un amico, quindi quella roba me la devo portare appresso, devo fare un pulgaretto di abbrutto, e quindi niente, capito, quindi mi serve. Ma non è che ce l'hai nella zona di Boso? No, è qua a Sassari, attrezzatura, sotto custodia. No, è matrimonio, sto dicendo. Ah, guarda, lo devo sentire in questi giorni per mettersi d'accordo per orari, luogo e tutte cose. E vuoi studiare che sa cosa? Avete avuto dello spi? Col corriere, no, vabbè, già riesco a portarla, dai. Dai, no, pensavo. In moto viene un po' male trasportarla, dai. Cosa che fai, Gito? Ma da capo. Attento, mio hermano, si ascusci l'isola sarda. Io già, ma... Oh già. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Vai tu, cazzo, ma se che c'è lo spagnolo. Ma non me lo ricordo più. Oh, io già, se mi bevo la cassa di birra anche l'inglese parlo. Ah, quello è il linguaggio internazionale, non ti preoccupare. Già siamo più o meno alle stesse livelli allora. Comunque questi ne arrivano 7, 8. Meno male che tu sei sul 9, se no ti dappali, Almeno quello, dai. Adesso volevo provare un esperimento, se sento dagli linee in questi giorni, ma così a livello di scrupolo, volevo provare la differenza tra la boomerang e la ringo, vediamo un po' se c'è così tanta differenza. Beh, la ringo è meglio di quella, e senza radiale è anche più alta di quella lì, mi sembra sia a 5 metri la ringo. Daniele mi aveva detto che era 4 metri e spiccioli, a 5 metri forse non ci arrivava. Ma ci manca poco, invece quella che c'è tu adesso è 3 metri, così è? Sì, 3 metri e 10 centimetri credo, una cosa del genere. E intanto sono un quarto d'onda e un quarto d'onda, quindi quella lì è appena appena più alta, anche se non arriva a 4 metri, ma siamo quasi lì, E senza radiali c'è la spirale sotto, leggera leggera, e avrai un qualcosina di più di guadagno di quella sicuramente. Probabile. E adesso appena capiterà l'occasione, ma giusto a livello di sperimentazione, volevo levarmi questo sfizio, se era possibile, fare una prova e vedere tutta questa differenza. Ma perché Daniele ce l'ha la ringo? Sì, Daniele si è messo la... Daniele ha smontato la ringo e si è piazzato la Energy che ha preso da poco. Fatela andare allora, e la provi, molto ci vuole. Dico, appena capiterà l'occasione, adesso in questi giorni sicuramente sarà impegnato a fare altro. Capra. Cazzo, sono forti, c'hanno anche un bel segnale sotto, anche a me mi arriva 6-7. Chiama, ti togli lo sfizio a vedere se ti ascolto. Adesso è un po' più tranquillo. Ciao, mando fottidine, già rispondono se ti sentono. Va bene, te la fotti in una, ciao, va, già compreso. Dai, aspettiamo ancora un po'. Io gettò lì. E basta, ribasso. Passano i dolci. Non ci sono, bisogna approfittarne. Mi ha fatto vedere solo lo Smith, la radio non me la fai vedere. Se si può vedere chiaramente in fotografia. E non la conosci la radio? No, non la conosco. Non guardare i segmenti del frequenzimetro che ce ne sono due andati, però. Ok, sì, mi sembra che è arrivato un messaggio. Vabbè, ti è arrivato sì, capa. Aspetta che guardo. E allora, gente mala, muscisi. No, non siamo muti, stavo mandando una foto, ciao già. Gianni, guarda che ti ho mandato un'altra, non dire niente però, cosa dici, ti piace? Messo nuovo, Gianni. Sto guardando l'altra foto. Ok. Va bene. Può andare, sì, sono promosso. A voglia, ottima abbondante. No, perché ci sono anche altre due scatole piene lì dietro, non per altro. Grazie. A voglia, dai che già sei messo bene, sei attrezzato, dai. Vai, doppio room. Buonasera a tutti innanzitutto. E cos'è, nuovi acquisti che hai fatto, Massimiliano? No, non ho fatto nessun nuovo acquisto, già. Niente. Già, non lo fai. Cioè, il nuovo acquisto già l'ho fatto, va. Vabbè, ho capito. Avanti, lo profe. Ciao Gianni, buonasera. Ben ascoltato. E allora? Tutto bene? No, io ce l'ho messo dal medico, qua. Sono andato poco fa. Fatto tutto quanto, mi devo dare la terapia e si è dimenticata di farmi la ricetta. Sono dovuto ritornare di nuovo, altro che bello, tutta la sera dal medico, so. Scusate il cellulare. Guarda la foto dopo già che ti ho mandato. Ma un'altra? No, basta, a te non ti bastano quelle lì. Se no ti fai gli occhi troppo a cuoricino, ti esco. Sì, vabbè. Le ho viste. Aspetta, ti voglio togliere un altro sfizio, aspetta. Ok, eccomi qua. Quindi è risolto già? Sì, sono qua. Dico, per la storia della ricetta poi è risolto. Sì, ho telefonato alla segretaria per dirlo alla dottoressa, ma non rispondeva. Sono dovuto di nuovo andare e ho chiesto alla gente che c'era, mi avevano già visto che me ne era appena andato, e mi hanno fatto entrare, gliel'ho detto e me l'ha fatta subito. Sì, ho risolto, ho preso anche le medicine, perché ho questi dolori ai femori che non riesco a stare, non riesco manco a alzarmi, so come stanno bene, non ti dico altro. E mi ha dato questa terapia antidolorifica, antinfiammatoria. Immagino, anche io, insomma, in questi giorni, c'ho altre prove da superare, vabbè, adesso non è il caso di entrare nel dettaglio, però più o meno sempre di dolore si tratta, quindi, e niente. Comunque, piccola annotazione, adesso non so se che radio stai usando, che microfono stai usando, ma questo, a mio parere personale, secondo il mio orecchio, di cui mi fido abbastanza, questa è la migliore radio che ti ho sentito sino adesso. Chiara, limpida, squillante quanto basta, perfetta. 10. KK. Sì, questo qui è il Galaxy Saturn Echo, col microfono Saverta, dai. Lo so, guarda, queste qui sono radio che vanno bene, dai. Io l'ho sempre amata questa radio, proprio per quello, perché ti facile con una radio, come se tu in verticale ti fa uscire. Io sono, insomma, preferisco di gran lunga una radio del genere, perché a lungo andare poi proprio, è l'orecchio proprio che dopo un po' di tempo non sopporta certe frequenze, capito? Gianni! Scappa, ti so che vuoi una cosa. Gianni doppio. Dimmi. Hai visto la foto che ti ho mandato senza dire niente? Sì, ho guardato, ti sto scrivendo una cosa. Ah, ok, no. Ce n'è anche un altro, già. Se vuoi ti mando la foto, te la faccio vedere. Con gli stessi watt. Vabbè, bello. È una bella saturcina. Ma il mio segnale lì com'è adesso già? Prova. Vabbè, no, vabbè, voglio dire solo radio però, La radio è buona, il segnale 9.25 a picchia 9.30. Così aumenta qualcosa. Prova, che non stavo guardando. Guarda a vedere, 1, 2, 3, prova. E così sei, 9.30 e più, al DBA lì. Vabbè, la radio è buona, sì. Sempre buona. Vabbè, adesso c'è quello che ti ho mandato la foto. KK, sì, va benissimo, non distorce nulla. Sempre mandando in foto pornografiche, sì. Là, non è tanto, claro. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Guarda, 2 minuti che poi devo uscire. Com'è? Quello è bello, sì. È bello. Io ho il figlio di quello. Ma se ne ha il tuo, 3 di 20 anni, no? Trese. Oh già, guarda questo se ti piace. Stai rinescando, Massimiliano. Sì, perché c'avevo l'altra radio accesa. Guarda questo qua se ti piace. Va bene, va bene. No, se ti sto mandando una foto, cosa va bene? Ah, il segnale pensavo, aspetta che mi stiamo chiamando al telefono. Okay, Mani, Ehi, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. E allora, come stiamo oggi? Un po' meglio, anche a me mi ha dato qualcuno da fare per una settimana, punture, lo sapevo, quindi ne ho già fatto due, una ieri e una oggi, un po' meglio comunque, riesco a trascinare meglio la gamba, adesso piano piano vediamo se passa questo dolore. Che passa, ve lo zappo io? Sì, ve lo zappi. Ma le mani mangiano anche un po', bugiare in campagna, eravamo a pranzo. Verso le 5 siamo rientrati. E via. No, lasciate che Massimiliano. Ma ce l'avevo già da qualche anno, però non l'ho mai curata, adesso stando fermo, sai come ti muovi? È un po' diverso, mi ha detto molto pedico, io non sapevo niente. Invece stavo seduto, se stava nuda, il dolore aumenta. Grappa, grappa. Vabbè, ma tu già ne sai, vai 40 anni, va, via da te. Se avessi voluto un po' di mal di schiena che ho io, stavi 10 ore, se pago l'aggeggio, già lo sai. Io lo so, quanti ce li ho sa più giovani, ma si via, mi gioco un montone di garraggio, non lo gioco più. Ma è tolto pico, stia attento, non fare sforzi, ho fatto una lacra. Tutto male da una colonna vertebrale, fa l'F5, non ve ne più proprio, non ce n'è più, capito? Ma ha detto stia attento, non faccia sforzi, quando solleva pesi, pieghi le ginocchia, non le prenda, senza chinarci bene, anche se non mai bisogno più. Infatti stavo mettendo i pesi degli alberi sopra il camioncino, io non ho mai dentro, me ne ha fottuto, adesso vengono anche domani. Vabbè, poi lunedì viene il ragno, mi ha detto il ragno Massimiliano, lo devono mettere dentro il giardino con la gruetta per fare la facciata, cos'è il ragno? Quello che si va a prendere la facciata. Ma chi so è? Beh, penso di sì, io il ragno conosco un'altra cosa, il ragno è quello che in poche parole è tipo un escavatore, solo che ha due braccia davanti idrauliche e due ruote dietro. E quello si appende da tutte le parti, nelle scarpate, nelle pendenze, capito? Poi se devono fare le facciate sicuramente il ragno è quel ponte mobile. Hai girato tutti i raiboli per fare spazio. Domani, lunedì mattina arriva col pianale, lo mettono il pianale con la gru, sicuramente sarà mesina. Lo mettono dentro il giardino per fare la facciata esterna. Ma i due compare già radio, ciuppa. Gappa, gappa. Ho mandato una foto del serpente a doppio ru. Ma quello non è come quello c'è lui, quello dell'altro modello. È un po' diverso, va. Ci sei, Gianni? Io sono qua. Gappa, gappa, riprendi, dai. Fatti sentire, fai chiama agli spagnoli, aiuto. Ma è finita, che adesso proprio non ne ho voglia. Quando sarò in pienissima forma, allora già mi butterò dentro la mischia. Ho sentito Massimiliano Rosmet, lo toglie il segnale, Eugenio, cos'è che sta novità? Ah, mi hai fatto la spiegare da Gianni, perché io la novità, non lo so, fatta la spiegare da lui. Ma si mette a scendere a risa, cos'è che ti ha detto Eugenio? Ma tu lo sai quanto perde uno strumento, io ne ho... ci ho fatti 230, vita naturale durante, è sempre attaccato e non perdo proprio uno strumento, prende lo 0,1% del segnale, come sono di B, 5 dB, un dB sono 6 punti esimi, giovanotti, state attenti quando parlate di dB, un dB è 6 punti esimi. Allora, ti spiego, ieri è entrato Eugenio, niente, ci siamo salutati, mi ha detto, ma Gianni, qua da me sei calato il segnale, hai fatto qualcosa? Gli ho detto, no. L'antenna è come, insomma, l'ho piazzata e ciccia, non ho toccato più niente, l'unica cosa che ho fatto è ho messo uno strumento per controllarmi i watt e le stazionarie e niente, ed è praticamente passante, insomma, è collegato allo strumento. Ma ha detto, perché qua sta arrivando Santiago 1, 1 e mezzo, facciamo la prova in diretta, vediamo un po' se staccando lo strumento, collegando l'antenna diretta alla radio cambia qualcosa. Ho cambiato praticamente ho scollegato lo strumento, ho messo l'antenna alla radio e mi ha detto che praticamente il segnale è da 1.5 è salito a 5. Tutto qua, niente di più, niente di meno. Ma 5 di fantascienza, dove abito? È impossibile una cosa del genere. È impossibile, capito? Qua tu sei sempre lo stesso, c'è lo strumento attaccato adesso? No, adesso stiamo facendo anche le prove con Massimiliano e quindi abbiamo fatto attacca e stacca. Beh, quindi anche da Massimiliano si attacca lo strumento e abbassa il segnale? No, dico, abbiamo fatto la stessa prova e Massimiliano mi ha fatto le foto dello strumentino e da lui dice che non è cambiato niente. Allora, claro. Lui con lo strumento attaccato, con lo smetto attaccato, ma da voi di cosa siamo fatti bene, comunque. Mi arriva a Santiago 9 pieno pieno, senza lo strumento mi arriva pieno pieno pieno lo stesso. Ti ho fatto le foto sia con lo strumento attaccato e sia senza strumento, quindi per mezzo, non lo so. Ma esiste una cosa del genere, attaccati lo strumento, lascialo attaccato, che c'ha problemi lui, c'ha, se no della bellina in giro, ma stai scherzando. Qua c'è 9.20 attaccato con lo strumento, 9.20 c'è senza strumento, ma non esiste, ti ripeto, ribadisco che uno strumento può, ma dipende dagli spettroni che hai, la lunghezza dei spettroni, ma stiamo parlando da 0,1%, proprio una percentuale minima, capito? Proprio minima, cosa vuol dire 1 dB? 1 dB sono 6 punti S. Sei attenti quando va a vedere i dB, è meglio dire mi stai arrivando con un segnale in meno, anziché dire 1 dB, 2 dB, 5 dB, cioè ogni dB sono 6 punti S, attenzione! Ehi, capisco, no, ma guarda, effettivamente ti ripeto, è successo come ti ho spiegato, niente di più, niente di meno, mi ha fatto notare questa differenza e l'abbiamo fatto in diretta la cosa, non c'è nient'altro, non è che ci siamo messi a discutere più che altro, insomma, non c'era in atto una discussione, lui mi ha fatto notare questo, abbiamo fatto un controllo e effettivamente secondo quello che riceveva lui praticamente notava la differenza, è tutto qua. Guarda, già, tu adesso riattacchi lo strumento, l'unica prova che puoi fare, sai che cos'è? Riattacchi lo strumento e mentre stai modulando muovi lo spezzone della radio, del rosmet, se cali di segnale vuol dire che c'è qualche piccola massa che non sta facendo bene nello spezzone o nel PL dell'antenna. Tutto lì potrebbe essere il problema, ma secondo me non c'è. Però se vuoi farla in diretta questa prova la puoi anche fare. Ma ci vediamo, gli ho dato io lo spezzone, è nuovo con lo spezzone, c'è anche PL nuovi. Mi sembra molto strano. Ehi, no, ma per dire, se si vuole togliere questo sfizio, no, cla. Mentre sta modulando muove le spezzoni e si vede, se si abbassa il segnale è lo spezzone, a volte può scappare una massa che non stia facendo bene, capito? Prova, riattacca lo strumento, qua c'è 9.20, vediamo se cali. Aspetta qualche secondo, Ma io veloce però, se no passa a Sirio e ti bruciano. Ma è doppio lu, sparito, È il telefono. Capra, cosa vuole la segusina di Capodanno? Ho zucchine ripiene, Vabbè, con un po' di zucchine in frigo, se no ci guastava. Per non fare le fritte, abbiamo fatto il condimento con le radio, abbiamo messo al forno. Gappa. No. Noi stasera ci facciamo due fettine impanate, due patatine fritte e tu baghettaggio, se va bene così. Ok, adesso lo strumento è agganciato, sto muovendo i cavi. Allora, un connettore in movimento, secondo connettore in movimento, terzo connettore della radio in movimento. Io direi a farci una battita di balloni, Eugenio. Sì, 9.20, non si è mosso niente, 9.20 di prima qua. Ah, c'era attaccato lo strumento. Dì la pulisci l'antenna nel momento dei cristiani. Anche qua, idem. 9.20 e 9 si è rimasto. Bene meda, ok, dai. Fatti il set delle stazionarie a vedere. Presenta un attimino. Uno. Ok, adesso non toccare niente, vai sui watt, quanti watt stai dando? siamo 3,9, 3,8, 3,9 watt. 4 watt, no, ok. Non hai perso nessun segnale né niente qua. 1 e 1, sì, non alla grande, no, di più. C'è una bomba con questa antenna, 9 e 20 mi arriva la limite. 9 più 20, si può non amato, la vice bide già a tutti. Manco uno sicuramente arriva come arriva. Io mi ricordo Salvatore Branca, cazzo, la viale produttore, se mi arrivava 9 più 30, ma cosa allucinante. È un punto buono quello, là. Infatti lui stava dicendo che vuole provare la Ringo che gli dà Daniele. Ma se la Ringo va meglio, si lascia la Ringo. La Ringo, se che tu ti ricordi, là, quanto è alta? Io mi ricordo che è alta quasi 5 metri. Sì, 5,50 metri, 5,60 metri, è uguale a quella che c'ha Mauro, che si è spezzata, è uguale a quella, eh. Ma è cosa, mi ha detto di no, che non arriva a 5 metri. No, di sopra è 5, adesso mi ricordo se è 5,20 metri o 5,50 metri, comunque è una forzata, facciamoci a 5 metri, però è meglio di quella sicuramente, perché Mauro a me dalle punti mi arrivava 9,10 con la baracchina normale, capito? Però da dove lui lì un po' in mezzo all'ugocio, ma lui c'ha una posizione micidiale, mi arriva, te l'ho detto, mi arriva così con quel segnale con la boomerang, fatti un gonto. E infatti quello sto dicendo, la Ringo è molto superiore, gliel'ho detto anche io, già che quella lì è 3 metri e la Ringo c'ha già 2 metri in più, quindi recupera sia in ricezione che in trasmissione. E si conferma, vabbè, quando Daniele tra là, abbassi quella lì, senza toccare la taratura, senza toccare niente, la appoggi e attacchi la Ringo. Se la Ringo è superiore, lasci la Ringo, e se no te la punisce. Vabbè, ho detto, stavo parlando poco fa con Massi, era giusto a livello proprio di sfizio, per fare un raffronto e vedere quale è più performante. Sì, te lo sto dicendo, le prove si fanno così, si toglie un'antenna e se ne mette un'altra, sai quanto tempo ho perso io per acquisire esperienza nel provare le antenne, nel provare il radio, nel provare i microfoni, andiamo a provare. Andiamo a provare, fai un po' di ginnastica, togli una e metti l'altra. Se vedi che il risultato non cambia o addirittura è inferiore, rimetti quella che c'era, normale, no? Claro che sì, no, infatti adesso, ti ripeto, è una mia idea, poi per provare bisogna che ci sia anche Daniele d'accordo, quindi voglio dire, quando sarà possibile mi piacerebbe fare l'esperimento. L'esperimento si farà, l'esperimento si farà, non penso ci siano problemi per Daniele. Ok, avanti Massimiliano, Che ora sono? È un altro passaggio, poi mi preparo, vado a portare a Filippo, tanto la roba è già al forno, la segue Anna, che prendi? Vai a portare Filippo, vai. Non è che sei tu che lo porti, adesso fra un po' ti porta lui, capito? Gappa, va bene che bene, dai, tutto logico. E se fai questa prova già andrà bene. No, le stavo dicendo di prendersi qualcosa o là, per prendersi una radio un po' più performante, capito? Non so cosa abbia da vendere da poter darle dei consigli. Di là me ne appunto, che vuol dire, però io non ho radio, se no non te l'avrei regalata, ma te l'avrei prestata, almeno la usi. Ma non ne ho, ce l'avevo ancora un po', però è meglio che rimanga qua, non si sa mai. Non si sa mai se avessi avuto quel superstar che avevo comprato a Massimiliano, che ho venduto, te l'avrei prestato a usare, non ha giù altro radio, capito mi hai? Ah futidini, cra, futidini, no problem, va bene così adesso. Sì, un legnaretto già si può punire, un legnarettino, solo con la radio non c'è un Michigan, non c'è un cazzo, boh. Ci vorrebbe una radio un po' più performante, eh? Ma l'Aran 48, ci pone l'Aran 48, tu non fai di più con noi, se vuoi gente lo 23 non fai di più con noi, tu. Infatti meglio quella che c'ho, dai, dell'Aran 48. Aspetta che devo fare una massa, ci sentiamo subito. Eia, no, l'Aran 48 è una cosa allucinante, no? Non lo sto usando. usando io, che mi piace usarlo perché ho anche il suo microfono da tavolo, c'è molto bene, ma non lo uso perché non si può usare. Guarda, c'era Franco poco fa e stamattina gliene ho regalato uno. Oh, ah, chi su che la scende Bari a Pappedino? Oh, non lo so, è entrato Franco, l'ha agganciato un attimino, dice che aveva problemi in ricezione, poi a quanto pare mi sembra che fosse un problema di spinotto, di microfono o roba del genere. Dice che insomma adesso a quanto ho capito funziona molto bene. Se quello che stavo usando stasera, io stavo ascoltando, stavo facendo qualcosa, la radio non mi piace. Non so se sto usando il più 4, il più 5, non lo so, ma io ti faccio sentire il mio, quello MB più 5 è uguale a questa modulazione. No, dice, mi è sembrato di capire che stesse usando il suo microfono, cioè il microfono del baracchino, quindi questo mi è sembrato di capire. Me l'ho sentito, però non era molto molto bella la modulazione, un po' popperinata, un po' senza nessuna tonalità, vabbè. Ci farà il collegamento all'MB più 5, all'MB più 4 e vediamo come esce. Va bene, va bene. Bene Meda, ho visto la radio, Marco ieri mi ha mandato la foto della sua radio, carina, carina. Ehi Marco, ne ha baracchini belli, già ne ha baracchini belli anche lui, ogni tanto ne stacca uno, attacca l'altro. Già ne ha, no, io baracchini qua non ne voglio vedere manco uno più. Ce l'ho dentro l'armadio, quello omologato, lo rimane dentro l'armadio. Quelli in base li ho messi lo stesso dentro l'armadio. Ho messo le radio, tutte quelle radio nuove che ho, HF, VHF e UHF. Basta. Compresa quella radio che mi hai mandato l'altra volta, ti ricordi? Quella con l'alluminio spazzolato. Quell'alluminio spazzolato. Quale? Ma quella che stavo preparando? No, quel baracchino base, grande, quello in alluminio spazzolato, con tutte le manopole. Ti ricordi, mi hai mandato la fotografia? Sì, sì, quello l'ho messo nell'ingresso, perché c'ho un armadio immenso e l'ho messo lì sopra, coperto. Non tolto tutto, no. Assolutamente. Cosa ne vai? Se non le usi è inutile che le tieni lì a romperti le palle o Gianni. Diventa un accumulo di polvere, non puoi passare straccio, non puoi passare niente. Allora ho preferito metterlo da parte e basta, capito? Anda bene, anda bene. Benissimo, benissimo. Ma doppio room? C'è la doppio room? Ci sei già? È al telefono Gianni, sicuramente. Ha detto che aveva sbagliato il telefono. Evidentemente cosa impegnativa. Sì, questione di feeling. Ascolta, ma questa propagazione ne sta sentendo gente? Io? Ne sento io sì, da quassù se ne sento propagazione. Però non è come gli altri anni, ancora non è entrato bene il caldo, capito? La giornata è ancora, lo skip è molto lungo, non si apre ancora. Adesso si iniziano le belle giornate di sole con un po' di venticello, allora inizia la propagazione. Ancora, ci sono temporali ancora, hai visto in Alta Italia stava piovendo, ieri stava piovendo a Roma, nel Basso Campidano dice c'è stata una tempesta d'acqua, non si comprende nulla ancora. Un po' la ricoccò, dai, non è vuole sapere di stabilizzarsi. Questo aprile è un po' particolare, adesso vabbè, oggi è già 2 maggio, vediamo un po', sembra che il tempo stia cambiando, però stavo guardando il meteo su internet, sembra che fine settimana sia un po' così, però la sera c'è freddo, io quando vado a portare il cane non è come gli altri anni, di questo periodo uscivo anche a maniche corte o con il giubbottino leggero. Ogni sera alle 8 io devo mettermi il giubbotto pesante perché ti caghi dal freddo. Ho ripreso, eh? Avanti, avanti. Vabbè, c'avevo la radio bassa, quindi non so di cosa stavate chiacchierando, ma ancora in occhi, sì. Pensavo che avevi già portato a Filippo, è rientrato. No, non ho portato nulla a Filippo, verso le 8 ho portato, ma un quarto così, dai, ancora un po'. Perché poi io... Cosa ben si butta Filippo e torno a entrare in radio, io grande chiudo tutto e basta, si rabbiglia come le possa, ma oggi fa la accende e spegne. Ascolta, non è che c'è qualche radio che ti stressa le tasche, no? No, no, assolutamente, guarda, assolutamente, mi. Il 757 è nato alla base, è a fianco 950, e rimane in Chivi, capito? Rimane lì. E il 590 è a fianco al 440, sotto il 430, e niente, non lo sento l'armadio. Io non ti ho detto cosa c'hai, ti ho detto se c'hai qualche raglio che ti stressa le tasche, non ti ha giudito dove c'hai, dove non c'hai. E io ti ho detto come sono organizzato, non na giù, no na giù, capito mi hai, no ne ho, pezzi di aereo, raggio compreso. E tu sei stata zuzza, ma ti rimando il messaggio vocale e te lo ridico di nuovo, non te lo dico qua, lo sai come la penso, non è di chi si va in radio, intanto di chi si ottene va in un cadu. Ascolta, un'informazione, scusa già, un'informazione Cla, il 570 dal 490 cambiano un po', però si assomigliano parecchio, vero? Il 570 di cosa stai parlando? Io di 570 conosco il Kenwood, che è tipo il 440, ma dico tipo, e sottolineo tipo, perché poi alla fine è una grandissima cagata. Allora, il 570, se lo metti vicino al 590, si assomiglia tantissimo, così di zende. Kenwood stiamo parlando. È tutto digitale come il 590. E ma c'è una differenza, il 590 è un DSP e c'è anche scritto, ok, il 570 è come può essere il 450, capito? Lascia perdere, sono due varie completamente diverse, non guardare perché si assomigliano. Allora io ti faccio la foto a te togliendo i microfoni del 440, del 590, hanno la stessa altezza, la stessa lunghezza, la stessa larghezza, ok, solo che uno è una Ferrari, l'altro può essere forse una Mercedes, non lo so. Ehi, però io ti ho parlato, esteticamente si assomigliano molto. Poi dell'interno cosa fa, cosa non fa, sicuramente il 590 sarà tutto un altro bacio di maghi, però esteticamente si assomigliano molto. Esteticamente può anche assomigliarci, adesso non me la ricordo, ma la conosco come ragazza, ma non ha niente a che fare. Non pensare, il 570 è poi uscito il 590, il 570 è uscito, guarda, non ti dico molto, mi sembra che sia uscito appresso al 450 o forse prima del 450, era tempo. Cappa Roggero, aspetta. E poi ce l'aveva uno di Sassari che trava anni fa, in 27, manco il campo di auguri dopo dello 440. Oddio 140, oddio 430, tutta un'altra modulazione. Guarda Claudia, guarda, apriti questa foto. Non cambia tantissimo, Ti ho mandato una foto, se te la vuoi guardare. Io assomiglio molto. Vai Gianni, Rubio Fè. Eia. Vabbè, stavo guardando qua delle immagini così, giusto per gradire. Volevo dire una cosa ma non mi lamento. Stavo girandolando su eBay, è capitata questa radio. C'è meno pulsante del 440. Radio base, molto vintage. Murphy CBH 1500. No, pensavo che stavi guardando le foto che ti ho mandato dentro il cartone. No, non ho, il telefono non l'ho più toccato, non so se mi ha mandato altro. Ti ho mandato prima la foto della stazione, no? E poi ti ho mandato la foto di tutto cosa aveva dentro i cartoli, senza contare che sono veglioso ancora. Dimmi Cla. Hai detto bene, sì. Kenwood Trio TS570D. Kenwood Trio, la Trio ha chiuso nel 1985, capito? Ehi, vabbè, questa l'ho trovata così, c'è anche quello che non è Trio. Però però esteticamente io l'assomiglio molto, alla foto che mi hai mandato tu l'assomiglio molto. Signora, guardando la foto e guardandocelo davanti è un altro pianeta, non può assomigliare, cioè non va pulsanti, non va nuda, cioè questa è una radio che leggi nel computer, capito? È un computer, non ne ha di commutazioni e di potenziometri da sollevare, abbassare, Mickey Gay, potenza. Devi schiacciare un pulsante e nel display ti legge tutto quello che tu stai facendo. Cioè è un altro pianeta, sono altre cose, ma sono completamente diverse. 570 è quello che ci aveva, guarda, per farti capire, questa radio ce l'aveva la figlia di Gigi, il vigile del fuoco, Anna, che modulava, mi sembra, lì da Sassari Vecchio, ma una modulazione io non mai ci vedo a nulla, cioè, ma te la faccio bene la foto e te la confronti con quella. Allora, questa foto in alto, che in vodetrio ha meno tasti e meno funzioni del 440, l'altra sotto, il PS570G, è uguale, precisa identica, non c'è nulla. Allora, io adesso ti ho mandato la foto del 590, vabbè, tu ce l'hai lì, e ce l'ho, tutte e due vicine, sia il 470, sia il 570 che il 590. Io esteticamente li assomiglio molto, io, voi. Hanno la stessa, lascia perdere, ci avrà più pulsanti e cose. Allora, 2, 4 e 5, 2, 4 e 5 potenziometri, il pomellone WFO classico al centro, uguale a 570. Pulsante ne ha parecchi, non ne ha pochi. Ah, scusa Cra, Massimiliano, la foto dello scatolone qua non è pervenuta, magari l'hai mandata a doppio rum poco fa. No, l'ho mandata a te. No, negativo, non è arrivato niente qua. E cosa? Lascia perdere Massimiliano, tu hai detto che stai parlando di due pianeti completamente diversi. Lascia perdere, non ha niente a che vedere. Sono rientrato. Ehi, sei rientrato, sta a posto, sì? Sì, insomma, sempre che si dolore all'acchio, va, oggi va con la nuova terapia, vediamo un po' se funziona. Io me l'ho già fatta, facevo le punture, ne ho fatto due, una ieri e una oggi, ortopedico, e poi vediamo se va a portare la di nuovo la fascia di tipo busto, o se vuole mettere una cartelastica, è sciattica. E mi sono anche male, capito? Per questo mi dispiace perché sta arrivando l'estate, mi si girano belle balle. Ah, vabbè, ma l'estate ti passa col caldo. Se è sciatica non è niente di grave. Il problema è quando c'hai, per dire, artrosi, come sicuramente c'ho io. E infatti vi ha dato proprio una terapia specifica per gli artrosi. Adesso vediamo se è quello. Io mi metto a non fare sforzi pesanti e quando prendo roba da terra di praticamente piegare le ginocchia, non stando con le gambe dritte, abbassando solo la schiena, se non me ne bisogno più, perché l'F5 non c'è più, la put, c'è proprio l'anello tutto consumato, secondo lo sforzo che faccio non me ne bisogno. Gioia, è sempre a cozzi, sì. Adesso speriamo che questa terapia mi faccia bene, perché non è possibile. E quello di sopra si deve operare, quello sopra me, che è giovane, avrà 40 anni, si deve operare, deve andare a cosa, come si chiama, a Bergamo, e devo fare un'operazione che dura 4 ore, devo mettere delle piastre dietro perché si è consumata la cartilagine e cose, devo mettere delle piastre con si prende tutta la parte di dietro praticamente e poi lo abitano ai femori, lui già sarà una cosa lunga, chissà, non può ne lavorare né nulla, lui ha rifiutato lavori alla Maddalena, lavori da tutte le parti, lui è un imprenditore edile, cavolo, ha rifiutato il suo lavoretto perché non può fare nulla. Ho ripreso e scusa che ero in basso. Ehi, è la stessa cosa detta mai già, se non vuoi farti operare appunto così, mi ho un'operazione del genere, perché io non ne ho proprio, tutta la cartilagine se n'è andata, come faccio sforzi si infiamma, mi viene un dolore atroce dietro la schiena, poi mi tiro per la gamba, finisce, rompi coglione, adesso ti porto, un'ora ai nocchi, esci, ehi. Anche, cosa vai in bocca? Sai che c'è, anche in bocca c'è mangiato, cosa c'hai? Vabbè, dai, riprendetemi a portare il cane. Ehi, avanti, Gian. Ehi, aspetta, Gian. Ho mandato le foto, al posto di mandarle a Gianni Profeta, allora Gianni più giù. Che cosa? Di quelle delle radio? Cosa c'era? Dentro il carto e tutto, va. Ah, ce n'era di quella roba. Ce n'era. Va bene, hai capito Massimiliano, lascia pigli i confronti, è all'interno quello che conta, è tutto il meccanismo, questo faccio vedere già fa questa radio, quando vieni qua ti vedi a fare in testa, staccato il cavetto al computer, la comando è tutto al computer, ma cosa, poi me l'ha detto anche Walter, io ce l'ha un po' di radioamatori, però non l'avevo mai avuto modo di provarla, adesso la sto testando e provando. Ti dico che viaggio veramente alla grande, dai. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, se coincide, se non ritenete, vi tutti salutati. Ciao. Ciao, Clau. Ma io non ti ho detto che il motore di dentro e tutto che si debba. Io ti ho detto che effettivamente li assomiglio molto, tutto qua, basta, poi quella farà molte più cose dell'altra, giustamente. Tutto lì, però guardandole esteticamente io le assomiglio molto, tutto qua. Andiamo, vai a portare il cane, avanti, un bluffè. Una digitale, un'analogica, non guardare lo Smithers che è un semidigitale come può avere il 450, che lo chiamano digitale, non è un cazzo digitale. Una è analogica e l'altra è digitale. Di semidigitale c'è solo la strumentazione, ma quando parliamo di digitale si intende proprio il sistema digitale. 590 c'è anche scritto, 590 SG e DSP, è praticamente una radio completamente digitale, come un computer, capito? Lavora come il computer, tutto quello che si muove, tutto quello che tu vuovi, lui te lo legge nel display, capito? Mi hai bello bene, ciao. Ciao. Già, ti ho rilanciato ma ti ha parlato sopra, Claudio, non ho capito. Ho detto che mi sono arrivate le fotografie, ho detto che ci sono gli apparati che sono tutti in bianco, oppure sono a cui impipparo e non si vedono i frontalini. Li ho messi così apposta, se no è un macello, capito? Vabbè, dai, comunque, ho visto, dai. Però niente, ti fai un mobile e te li metti in esposizione. Non basta tutti che ci viso, lui? Vabbè, tu quando sciolle le dole di mezzo, lui già arrivati che ci godi. No, per quello già, l'altro giorno stavo parlando. Se avessi avuto il mio angolino, la mia scrivania bella grande, mi avrei fatto due belle mensole, avrei tutti anche staccati, però tutti in vista, capito? Però visto che ce li ho tutti funzionanti, li avrei messo ognuno sul microfono, fatto una cosa carina anche da vedere, capito? Ogni tanto l'accendi, comuti, ta, e te ne prendi uno, ta, e prendi l'altro, capito? Giusto per farli girare. A me mi piace la stazione, anche se sono radio datate, che poi non è che sono così datate, non cazzo, il Ranger è abbastanza recente. Cobra un bel bello, quello che c'hai, quello che mi piace. Quello già c'ha la pancia sotto, lui. Lo so, c'ha il dissipatore, esce con 100 watt nel barile. Quanto? 100. In AM? Ma è in banda quasi il doppio. Scappa. E va bene, quello di me l'avevano detto che scaldava ombre, ce l'aveva Tigre di Porto Ottone, diceva sempre che scaldava ombre. Ma a me non mi risulta. Io quello lo uso col tarne più 3 e non scalda niente. Allora era un difetto dell'apparato suo, infatti aveva fatto mettere una ventola, l'aveva mandato su ed aveva fatto piazzare una ventola fuori per raffreddare i dissipatori. No, già, tu ti stai confondendo alla grande, non è su questa radio. Tu ti stai confondendo col Magnum, quello Delta Force, come ti chiama. Quello sì, gli aveva messo una ventola dietro perché scaldava di brutto, ma non su questo. Ah, forse hai ragione, Massimiliano, forse hai ragione, era Delta Force, sì. Vabbè, comunque quello è bello, è un bel apparecchio, mi piace anche lo strumento. Bello. Poi questo è a sintonia continua, capito già, il pomello dei canali tu continui sempre, ta ta ta ta, e va sempre avanti, ti mette già di suo i canali alfa e tutto, capito? Ascolta Massimiliano, se si può dire, che radio ci sono dentro le scatolone? E cosa c'è? Non mi lamento più, c'è un Intec mi pare, poi c'è un Venus chiuso in scatola, poi c'è un Ranger, un Superstar 360, e poi che cosa c'è? Ce n'è qualche altro ma non mi lamento. Andava bene, giusto così per curiosità. C'ho anche un 48 di quelli Excel, nuovo, però non ho capito perché non va, ma è nuovo, mi neanche un graffio c'ha. Poi dentro l'altro armadio c'è un patch, e poi cosa c'è? C'è qualcos'altro che mi sta sfuggendo, perché c'è un'altra scatola giù in un'altra casetta, non mi ricordo cosa c'è lì. Ah, ecco. Bene, dai. Sei abbastanza fornito. Sì, sono radio che sono tutte funzionanti, ti ripeto. Tutte funzionanti. Vabbè, qui c'è un Tornado 4005, un 87, non l'hai visto? Sì, ho visto. Dì l'Herbert ci verrà giù io, mi. No, quello non l'ho detto, ma quello lì è il tuo. Mi hai regalato tutto il ceto per mio. Sì, ma poi ce n'ho qualche d'un altro, ma mi sta sfuggendo, non me ne ammetto più. Perché veramente c'ho un'altra scatola giù dentro la casetta e c'è qualcosa lì, perché l'ho visto anche l'altro giorno, sono entrato, però non mi lamento cosa è, la verità si dica. Che stavo traslocando, ci ho buttato tutto dentro i scatoloni e non mi lamento più cosa è. E il Ranger? Sì, il Ranger già è qua. Vabbè. Nulla, hai tolto solo praticamente il Typhoon, ma ci messo l'87, Avenger, il Venus, il 3009, il Superstar. Sì, però ne ho qualche un altro, c'ho anche quell'Intec, là, quell'Intec, cos'era quello lì? Il 500 mi pare, boh, non me ne ammetto. Quello che avevo attivo per giù, aspettami il 500S. Anche quello lì c'è, sì. Sì, però ce n'è ancora qualche d'un altro in giro. C'ho quel 48 nuovo dentro l'armadio. E poi cosa c'è? C'è quel patch. No, ne ho un altro, per forza. Di quelli vecchi così ne ho un altro ancora. 48 quello da mettere a posto è qua, ti ricordi? Vabbè, oltre a quello, la sapillina giù, spazio un po' in tutti i luoghi. No, qua è rimasto il 48, il resto ti è portato via tutto, capito? E quello da valutare, si mettere a posto, tenere a pensiero e cambio. Claro, io ti dico una cosa, io ho quel 48 vecchio di qua, che accende, c'è il finale 1969. Secondo cosa ne vuole quella persona lì, mi pare vi dovremmo punire un finale. Guarda, Antonello mi ha detto che con 10 euro quella rete si mette a posto. Si andrà ad appoggiare per prendere il finale che ce li ha. Ce l'ho io il finale di questa radio qua. Allora, ci vediamo un attimino, si toglie e si monta in questa che è qua. Era una sistemata, una verniciatina, insomma, si usa anche quella, beh. Vabbè, vado ragazzi, che questo mi sta stressando le balle. A dopo. Kappa, vai. No, vabbè, già, la radio già ce ne sono, se ne voglio usare già non mi mancano. A voglia, ci sono tre scatole pieni, quindi sei fornito, dai. Kappa, sì, già va bene, ma in genere io uso sempre questa. Per fare questo io uso questa o il serpente, diciamola. Ma per fare i DX cosa usi, il serpente? A volte uso quello, a volte uso questa. Tanto più o meno siamo lì, Bene. E anche doppio rumo so che è fornito, dai. Sì, anche Gianni già c'è una bella stazione, è vero già. Io ce l'ho quasi tutti piazzati, Massimiliano. Ne ho uno solo, uno, allora c'ho le... il Midland Plus da parte e poi c'ho un paio di portatili, dai, qualche portatilino che non li metto mai in stazione, però già sono ben fornito, dai. Diciamo che è una stazioncina piccola, però nel suo piccolo va bene. C'era un break sotto, avanti. Io non lo sento. Ma portateli 27 già. E io? Anche io ne ho uno carino, là. Forse te l'ho detto l'altro giorno, mi pare. E che portati lei? H520 Plus. Ah. Poi io non me lo ricordo più che cos'è, forse te l'hai. Aspetta, scusate un attimo, Massimiliano, ci si è parlato sopra, vediamo un po' se c'è ancora, avanti, ragazzi, lo sentite? No, negativo, a me non mi muove manco l'ago. Gianni, tu lo senti? Idem, niente. Capo, allora ti sento solo io, Lupo Grigio, avanti. So già, cosa fa il tuo solo 40 canali AMFM, già? Aspetta, attendi il Lupo Grigio un attimo, il mio è un 40 canali, Massimiliano, quartati solo 27. No, a Gianni stavo dicendo, doppio, il portatile. Cosa già? Non innesco. Doppio room, pari due. Vai, un caffè. Ehi, c'è l'amico sotto, basso, Lupo Grigio, gli altri amici in ruota non ti sentono, ti sto copiando solo io, avanti. Cada 9, sta modulando. Kappa, ci siamo sentiti forse anche l'altro giorno. Sì, qua mi arrivi Santiago 9, la radio 3-4, la radio un po' bassa. Non so se stai modulando col portatile dentro casa, comunque solo io ti riesco a tirarti fuori, gli altri non ti sentono, gli altri amici non ti sentono. Comunque niente, avanti Lupo Grigio. Kappa, ben sentito, comunque dall'altra parte, cioè gli amici che non ti sento sono Bulldozer, Massimiliano Bulldozer e Gianni Doppio Room, che però non riescono ad ascoltarti. Dai, se riesci a metterti un antennino esterno, magari da balcone, magari sicuramente riuscirà a farti sentire. Ben ascoltato, ben sentito e ci si aggiorna alle prossime, grazie. Kappa, Massimiliano, mi dice Lupo Grigio che vi siete anche sentiti per telefono e visti in verticale, non so se confermi. Dice Lupo Grigio, come si chiama? Nicola Lupo Grigio da Cappuccini. Ci siamo visti in verticale, forse sta confondendo. Probabilmente forse è un caso di omonimia, non credo che sia la stessa persona, così mi dice Massimiliano, ma tu gli altri li senti, Lupo Grigio? Io Lupo Grigio lo sento se attacco alla colonnina dall'orecchio. Guarda, Gianni Doppio Rumo riesce a malapena a sentirti proprio, vi arrivi proprio basso basso. Comunque niente, per il resto non so cosa dirti su, probabilmente un altro Massimiliano. Massimiliano, mandali la mia stazione a Gianni, che così va bene. Sì, l'ho già mandata già. Ok Lupo Grigio, vabbè, ti hanno sovramodulato. Comunque salutoni da parte mia e da tutta la ruota, ok? Grazie, alla prossima. Mi raccomando, antennino esterno. KK, buona serata. Già, l'hai vista la mia stazione? Ehi, aspetta che recupero il telefono. Cioè, con questo ci siamo sentiti per telefono e ci siamo visti anche in verticale, magando. No, ho detto, probabilmente è un caso di omonimia. Quindi è solo un caso di omonimia. Aspetta che sto a prendere la fotografia. Capra, capra. Io, ma sì, stavo innescando perché ho acceso tutti gli apparati per farti rivedere accesi, capito? E quindi normale che hai innescato. E infatti ho detto, boh, strano, stai innescando, pensavo che stessi cambiando radio, capito? No, ho acceso tutti gli apparati per farti rivedere illuminati. Capito? Si vede poco la 48 che è nascosta, ma già si vede un pochino. Sì, no, ma già va bene, ha voglia. No, vabbè, io sono un po' più incasinato, là. Ok, vista. Mi è piaciuta? Abbasanta, sì, sì. Carini, carini. Mi piace il bambino in mezzo. Carini, carini, sì, sì. Bella, bella roba, vai. Vabbè, ti posso girare il tuo numero. Ho Gianni Lubrofè, ha Gianni di doppio. Claro che sì, no problem. Gira, gira. Cosa giro? Aspetta già, che ti giro il suo numero così te lo memorizzi. E così ti fai due risate sulla radio che c'ho io. Chi ne ha già solo una? Va bene, da una si comincia, ce l'ho con io, ho cominciato con un portatile di risate critiche. Già lo so, già lo so. La Fayette, tre canali. 5 watt, tre canali, però modulavo anche con l'Alghero, lo sai. Già. già tiravano, allora già i portatili già sparavano, vabbè, a tre tempi. L'hai visto il mio portatile già? No. Guarda, vai su internet. H520 Plus fa da 25 a 30, 105 AMFM. Come si chiama? Aspetti, mando la foto della scatola che adesso allucelo giù. Ma se mi piazza la radio al grattacielo nuovo, dite che il segnale migliora. Guardate se con un suo occhio non mi fa. Guarda, ti ho mandato la foto già. Cos'è o Lubrofè? Ho detto che di fronte alla finestra qua c'ho proprio il grattacielo, spunta proprio il grattacielo nuovo dalle case. Ho detto, se mi piace la radio Ghibi sicuramente arrivo bene da tutte le parti. Ma guarda che tu arrivi già bene da tutte le parti, per la zona dove sei perfetto, mi già. È che se metti un'antenna bella performante da lì spari bene. Se c'è una radio che ha una quindicina di watt, da lì sei una bomba. Sono sicuro che già con una radiolina del genere, al di sopra dei 4 watt, sono sicuro che già usciamo fuori meglio, dai. Faccio un pensierino, ne ho tante nelle scatole. Ma se ho capito, però adesso non è cosa. Ma chi sono da diritto, insomma, venditi a che cosa? Quella roba, la strumentazione mi serve, quindi per tirare su qualche soldo, tira giù dito, quindi adesso vediamo un po', ho una telecamera, un cavalletto, roba professionale, non so se tenerla, vedi, quella lì volevi venderla, però insomma, è roba di nicchia. Roba antica però. No, è una telecamera professionale del 2008, con la sua valigia, alimentatore, batterie. Una telecamera di quella della televisione privata, a me. Ebbene, vendi tira, cosa te ne fai? Se non la usi, cosa te la tieni quando non si vale più nulla? Infatti ci sto pensando, vedi, quella lì potrebbe essere la prima cosa da sbolognare. Io dico che, cioè, perlomeno per come la penso io, poi vabbè tu c'hai un altro parere, però è inutile che ti tieni la roba vecchia che poi non la vendi e la devi svendere completamente, perché non si vale più niente poi alla fine, capito? Manco al regalo ne vuoi più. Vabbè, tu lo sai meglio di me che soprattutto le apparecchiature elettroniche, come i telefonini e tutte cose, praticamente tendono a svalutarsi anche nel giro di 3 mesi, quindi questo lo sappiamo entrambi, quindi però adesso ci sto pensando, quella eventualmente è la prima cosa che farei. Sì, perché lo sai che cos'è già? Nel senso che più la tieni e meno più puoi fare, capito? Tutto lì. Adesso, vabbè, quella tu mi direi professionale, ma io non me la posso comparare, usando questo coso in giro sopra le spalle. Ecco perché te l'ho detto, siccome è roba di nicchia, cioè non è che stai vendendo un telefonino, capito? Sono apparecchiature professionali che dedicate a gente che le usa per fare solo esclusivamente determinate cose, capito? Quindi non è roba per tutti. E infatti, a chi convendi? Ma a Kiko chi? Forse ho capito, dai. Gianni! Kappa, ho visto uno squillo. Segnatelo di lui. Kappa, aspetta, Kiko è quello che imita Renato Zero, per farti capire, Vasco Rossi. Conosco. Che cosa rimas? Renato Zero dei Pubi. Eia. Lo sai, è in gamma Kiko, Kiko mi ha fatto il servizio a me quando mi sono sposato. Capito. Vabbè, lui come... non c'era solo lui, c'era lui, c'era Imago, quelli della foto, e poi c'era Coso, Luciano Asara, quello di Sorso a cantare. Ma dico, che cosa fa in matrimonio che non lo sapevo? A me me l'ha fatto, mi ha fatto CD, mi ha fatto il prematrimonio, mi ha fatto una bella cosa, è stato veramente contento. Pensavo facesse solo spettacoli, presentatori, queste cose qua. Io l'ho visto qualche volta, già in gamba, non è che... non era stato bene un tempo fa. Lo so, ma ti sto parlando già 16 anni fa. Quando io parlo di matrimonio ti parlo di 25 anni fa. Ognuno c'ha la sua... la sua data, capito? Io l'ho chiamato, l'ho conosciuto, mi è piaciuto, ci abbiamo chiacchierato e me l'ha fatto lui, servizio di intervista, diciamo, dai, tutto il CD quando sono entrato in chiesa, andando a prendere la sposa, tutto lui vi ha fatto. Ah, bene. Il filmino show ti ha fatto le foto anche. No, le foto me le ha fatte coso, i mago, non so se lo sa chi sono. No. Quelli che ci sono di fronte a Corte Santa Maria. Entro a gamba teggia. Li facevo anche io, Massimiliano, i filmati per il matrimonio. Conosco, ho lavorato anche alcune volte con Carlo Porco di Mago, quindi già ci conosciamo io e Carlo. Abbiamo lavorato insieme alcune volte e quindi conosco come lavora e per la fotografia ultima scelta. Stiamo parlando dei migliori a Sassari. Infatti. Poi abita anche vicino a me è venuta a Serenella con la sorella. Sì, li conosco quasi tutti. Ogni tanto ci vediamo lì, passo davanti al negozio. E niente, quindi insomma, li facevo anch'io i video, anche quando lavoravo a TeleG, chiaramente, quando avevo la possibilità, insomma, il fine settimana, ne ho fatto diversi, poi vabbè, io avevo tutta la mia tecnica particolare, però dai, mi sono tolto molte soddisfazioni. Vabbè, io non ti conoscevo all'epoca, se no magari, capito. No, vabbè, Serenella, sì, Mago, non perché l'ho fatto io, però molto nominati a Sassari, forse sono i primi, ecco. Vabbè, c'è anche lì Foto Amica, però Foto Amica è un po' gussi, secondo me. Voilà, ho avuto il piacere di lavorare anche con Lando Quinzio, con Marcello Sava, grandissimi fotografi, anche con Marco Sanna, insomma ho lavorato con i migliori a Sassari, dai. E tu migliore eri? Non ho capito, scusami. E tu come eri, migliore? Ma diciamo che io la mosca al naso già me la levavo, dai. E beh, perché non l'hai proseguita allora? Ma sì, il mercato non è più come quello di prima, cioè prima si riusciva, come in tutte le cose praticamente, diciamo che anche quel Mondolini ha risentito, capito? Non è più come prima. Sì, vabbè, però uno che c'ha passione, che c'ha voglia, investe, gira su altre cose, oppure vabbè, i prezzi sono quelli che sono, non sono più come 20 anni fa, giustamente. Le attrezzature costano e ti devi mettere sempre all'avanguardia. Proprio perché te lo dice tra virgolette uno del settore, chiaramente poi sai, adesso se prima c'era gente che era disposta a spendere un budget per le foto e il video, adesso molti scelgono o uno o l'altro e sicuramente la stragrande maggioranza sceglie di farsi l'album fotografico, quindi il resto si taglia. Poi adesso è venuta fuori questa cosa del drone, insomma, a voglia, di fantasia ce n'è tanta, ce ne sono ancora molti che si cimentano, fanno anche delle belle cose, però ti ripeto, io sono molto sul classico, determinate cose le trovo un po' kitsch, un po' fuori luogo, per cui mi piace fare determinate cose come anche determinati fotografi, cioè chiaramente ci sono fotografi e fotografi, capito? Quindi come giustamente nel video, ognuno ha la propria impronta, la propria specializzazione. Ormai funziona tutto così, purtroppo ti devi sempre adattare a cose nuove, capito? Perché escono sempre cose nuove, quindi ti devi adattare. Ormai i matrimoni classici, secondo me, sono molto molto molto pochi. Adesso tutta roba moderna, sai, ci sono cose che 20 anni fa non finirono, cioè, è cambiato tutto, là. Avanti già, doppio, una bolla nel naso, Gianni. Riprendi già. Aspetta, mi sto facendo una sigaretta. Scusa che mi stanno suonando il campanello, eh. Doppio Rubi, ci sei? Chiamato mi avete. Già, t'ho chiamato io. Sì, perché sono andato a aprire il mio figlio, che stava suonando e adesso è... con la radio alta, non lo sentivo il campanello, mi ha telefonato. Kappa, aspetta che ti mando la foto della mia radiolina, dai. Kappa, Kappa. Oh signori, io vi lascio che è arrivata mia figlia e mia moglie, là. Una bella chiacchierata già me l'ho fatta. Ciao Gianni Doppio Ru, ciao Gianni Profeta e chi fosse in ascolto del canale 10, dai, io mi stacco. Venga, ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai, buona continuazione di serata, avanti il blocco. Ciao Massi, buona serata e buone cose. Ciao ciao. Ciao ciao, passo e chiudo, ciao. Ciao Cla. Ciao ciao Cla. Gianni, ti ho mandato le foto. È bellino, dai, è più grande lo strumento del... hai visto? Vabbè, lo strumento è poco profondo. Però è appena più largo, un centimetro da una parte e un centimetro dall'altra. E niente, quindi questo è quello che vivo adesso, momentaneamente. Dai, stai cominciando bene, te l'ho detto, ho cominciato col montato, ero inferiore a te, cominciato. Quindi hai delle buone prospettive per il futuro. Beh, ma tu non vai nuda da Valli. Cos'è qua? Ma già ne sto dicendo, visto lo strumento che ho dato io. Le altre cose le abbiamo sistemate, Gianni non vai lunga tu da Valli, un baracchino non vedrai. Fini in nera. Tanto che c'è, l'ho omologato che c'è in concessione, non lo posso dare. Io ce l'ho dal 48, ma cosa glielo va a fare? Se l'ho dal 48 a usarlo, non ci parla più lui su 10. Se parlano quelli del 23 lo ammacca, capito? Ma lo strumento l'ha detto la scatta, non lo voglio regalato io. Non facevo niente, adesso piano piano già, se si procura un baracchino come Cristiano, io ho un altro baracchino da sistemare, se riusciamo a tamello, se riesce a metterlo a posto lo proviamo, se funziona meglio di quello usi quello lì. Mi vede ridere ogni voce. Scusa Cla, guarda che ti ho mandato anche, ok, l'hai visto il portatile della 38 a Gianni. Sì, l'ho visto Cla, ma butta anche io quello lì, va bene con quell'apparato. Anche quello strumento l'hai avuto tu Gianni, il 999, non l'hai avuto tu Doppio Rum, quel 999 che fa da Rosmet, Lovatti, mette l'accordatore prima del TM1000, quello è uscito prima del TM1000. No, quello non l'ho mai avuto. Io ho avuto l'HP1000 e ce l'ho tuttora. No, quello è il 999, fa da Rosma, trovate, mette l'accordatore. Ed è uscito prima del TM1000. Sì, vabbè, ma tanto adesso per cominciare lui va anche bene, esce bene, si sente bene, insomma. Per diciamo l'antenna che ha va ultimamente. Io ci dobbiamo mettere un'altra antenna, non ti preoccupare, ci metteremo un'altra antenna e la prova, qual è che va meglio, se va meglio quella lì o quell'altra da 5,20 m, se va meglio quella da 5,20 m lascia quella, e poi per il resto vediamo, io tutto quello che riesco a racimolare, a trovare, devo dire a Gianni, una persona seria, una persona in gamba, ma giù di roba, è che l'avrei dato, ti ripeto, il 48, ma se avevo il 48 la ma. Non intende più a nessuno da anch'io, vedo. No, ma infatti, dovrei fare un apparecchio più serio. Un apparecchio serio ci vuole, perché non prenda splatter. Ma va bene, anche quello... Vabbè, tu non lo dai quello. Quello che ti aveva dato di Pinangelo, ma tu non lo dai di su. Lo dai. Cioè, Daniele ha attaccato come il polpo. Anche ieri, no, non lo avevo io, no, già. No, ma radio così, tipo che, no, non ci va un'antenna seria, già. No, non li va in onda, non puoi scegliere la potenza, no, non puoi fare. No, ma anche il ragazzo, ho detto, l'ha 48, ma è utile che glielo dia perché non fa, capito? Poi a lui, sto cercando di non farle spendere niente. Quello che a me non serve, io già ne glielo passo, lo sa lui, però in questo momento non ho radio che può usare lui, capito? Ne ho tolto tutto io già, io ho tutto, che vuol dire come Iaesu, non... ne ho tolto tutto, baracchino. attacchini, ho tolto la seconda base, ho fatto solo tutto bando amatoriale, però ne approfitto e uso l'HF anche qua, non me ne ha fatti nulla, a me non mi interessa proprio niente, io baracchini non mi piace usarli, ce li ho ma non mi piace usarli, capito? No, non mi va. Quello ho provato l'altra volta, quello con l'eco, cazzo, stavo entrando dentro il televisore, però se facciamo la televisione, no, buca di tutto, vai. Claudio, io non sto dicendo quelli radioamatoriali, sto dicendo quello che usava Pinangelo per non prendere splatter, te lo ricordi? L'Elbex, no, quello è come che sia, la sua fotografia c'è sopra, no, già. Ne ho io tre di persone che non ci sono più, quelle per me sono intoccabili, quelle radio, sono intoccabili, assolutamente, se no gliel'avrei regalato, capito? Se Pinangelo fosse vivo, che insomma, l'aveva regalato a me, io l'avrei regalato a lui, non ho problemi, ma siccome è una cosa che ci tengo particolarmente, no, non posso darlo. Ma manca a provare. Cambiamo argomento, dai. Già, sono cose effettive che ho di persone che sono scomparse, sono molto amici, già ne lo sa. Perciò no, assolutamente. Se no, avevo buttato 5 minuti in via Rusia, sarei sceso domani mattina, ho usato questi. Non te lo posso dare, ci tengo troppo a quella radio. È una cosa che non riesco manco a usare io, perché ho dei ricordi allucinanti, quindi non vederla mi ruola il cuore, capito? Se no te la vedi regalata, usai che io dei buchi baravoli, no, quello che abbiamo fatto prima facciamo adesso. Però quella non si può toccare. C'è la radio, il portatile di Porellai o il portatile di Porellai che lo tengo sempre in carica per non scaricarci, e me l'ha regalato la figlia quando lui è morto, figurati tu, ed è sempre davanti a me il portatilino, l'ICOM di Carlo Titano, il portatile, il VU di Giampaolo Silvestro, sono tutte cose che io ho e non darò mai. Gappa, adesso lo sappiamo. Tu tutta la roba della gente che muore ce l'avrai tutta tua. Quando muoio io ci avrò anche la mia. Mi intrometto un attimino, sì, infatti qua ti capisco benissimo, io avrei fatto la stessa cosa, cioè nel senso ci sono determinate cose che vanno al di là degli oggetti, quindi neanche in discussione, quindi non ho, per carità, non ho, è tutto qua. No, ma non è esattamente come dice Gianni Occhiuru, io non vado come fa molta gente quando muore un radioamatore aspetta che ci portino via tutto e poi contrattano per portare via tutta la roba, pagando naturalmente. Questi sono regali che a me mi hanno fatto le mogli, i figli, eccetera, quindi è impossibile che io possa darli, Gianni, capito? Assolutamente. Non ho mai avuto nessun problema di quel genere. Portatilino me l'ha regalato Carla, la figlia di Vittore, perché era il portatile che lui usava spesso con me per tenerci in contatto e quindi l'ha dato a me. Un altro VU era di Giampaolo Silvestro, lo sai, ci tengo tantissimo, e un altro è il baracchino di Pinangelo, quello che tu ben conosci, è dentro l'armadio, l'ho attaccato una volta, l'ho provato, ho visto che andava benissimo, però rimane dentro l'armadio. Già, e tu, il testamento qua è già fatto, è tutto di Massimiliano Bulldozer. Mi dispiace tantissimo perché lui poi quel HF se li vende tutti perché non li sa usare, capito? Ma entrami, mamma mia, come sto? No, che se no te fate la voglia la figlia, se l'ha mollato. Allora, ho fatto il testamento a lui. Ho fatto il testamento a lui, oramai. Ma ne ho tolto anche una, figurati, perché è arrivato il 590, non l'avevo posto, l'ho messo il 590 a fianco al 440, il 430 l'ho messo già dentro l'armadio, siccome la radio che può rimanere spenta, non è come il 440, l'ho tolta per il momento, se poi faccio qualche altra modifica magari la riattacco, ma non c'è manco più poco. Vabbè, dai, signori, vi saluto e pronto la cena. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao Gianni, ciao a tutti quelli che sono ascolti sul canale 10. Ciao. Sì, ciao Cla, ho capito, il 430 lo stai conservando per me. Ciao. E il 430 noi per corso. Fammi ti indichi sarà il 48, che mi ha detto Gianni Dubrofetta per come esce Franco. Ma come deve uscire? Con una 48? Ma chi cioè? Ma il microfono normale. La mia 24 l'ho messa lei. No, sta spingendo, vedi che ho ragione io allora già. Non sta facendo il microfono, ma lo sta spingendo. Se io ti faccio sentire il mio, con l'MB più 5 o con l'MB più 4 spinge molto di più. Come mai fa? Ma no, non c'ha mica chi? Sì, c'era, ma non è stato tutto originale. Non è stato mai toccato. E anche il mio non è toccato, è stato. Il mio originale lo stesso, in concessione. L'unica cosa che mi ha fatto Gigi Vulcano è ha tirato un po' sui matti perché ne aveva 4, me li ha portati a 8, basta. Però non è stato toccato altro. Boh, allora il microfono che non si adatta lì. Beh, lei ci bisogna aprire il microfono. E l'altro è dell'originale. Ma non so cosa sta spingendo, e l'aria già si muove qua quando parlo. Sì, probabilmente voi avete tirato un po' su l'LC per pilotare meglio il Mickey Game, però è un po' più alta del microfono normale, capito, però esce molto meglio l'altra che c'hai, sicuramente. Va bene, no, già 4.30 lo stesso non do niente. Non do niente, l'ho tolto perché non c'ho posto, ho messo il 5.90 e quindi non c'ho posto. Però il 4.30 o il 4.40, visto che è arrivato il 5.90, molto probabilmente lo do, ma sono già in contatto con Daniele, quindi gliel'ho promesso uno o l'altro, adesso vediamo. Deve, quando è pronto me lo deve dire, per il resto io problemi non ne ho, tanto di queste ne ho un'altra, quindi non è che mi fa né caldo né freddo, almeno so che c'era lui, anche se la prima volta gli ho fatto avere tutta la linea completa a 140, grazie, si è venduto la T250 senza di minuta, ma... Vabbè, succede, vabbè là, io vi lascio tutti già che c'è mio figlio a casa, ci sentiamo ragazzi, buona serata a tutti e buona serata anche agli ascoltatori, ciao. Ciao, domani riprendi Rubrofetta. Dai, facciamo chiusura di gruppo. Ok, dai, già, ben sentito, ben ascoltato, dai, le prossime, buona serata. Mi sa che chiudo anche io, Cla, quindi niente. Chiudiamo, ci sentiamo magari alle prossime, d'accordo? Ciao. Ehi, va bene, ciao a tutti, allora dai, ci riascoltiamo alle prossimine, KK. Ok, saluto anche a Franco se c'è ancora. Ciao, dai, ciao a tutti quanti, ci sentiamo. K, ci si aggiorna, buona serata. Ciao, Fra, ciao, ci aggiorniamo. Ciao. Oh, bravo, io. Lui. Della 48, non lo so, Fra, a me me l'aveva fatto Gigi. A Massimiliano manda un messaggio, lui della 48 è molto pratico lo stesso. Io non mangio mai Ducato, Fra. Oh, assolutamente. A me me l'aveva fatto Gigi, me l'aveva tirato su di potenza perché ci aveva 4 watt, 3 watt e mezzo. E me l'ha portato a 8, modulati 10, per non attaccare lineare, per non attaccare niente, in modo che abbia qualcosa in più, capito? A Massimiliano devi sentire, Fra. Così lo fate assieme, vi spostate, lui ti dice cosa fare, è tutto che dovete dice lui, capito? Abiti lui o una pesceria, Fra, non lo so. Come hanno fatto un po' a me, dai, però io ho cercato di lasciare le cose indispensabili per potersi fare qualche soldo, sennò a me volevano dare un sacco di roba, però ho delle cosettine che hanno un valore affatto. affettivo e quindi me le tengo, capito? È normale, è così, è così. No, ma la Rango 98 già va bene. Dunque lui dice Massimiliano, te lo fa aprire, ti dice vabbè tirare su magari il Mickey Game e le cose principali e vedrai che esce bene. Il mio è una canonata, io non lo tratto, fra, perché sento, addirittura da qua, io sento gente che parla nel canale 23, fatti un conto. Ma sì, ma si sa, no, che questi baracchini qua, il vatter li prendono, ce li ricordiamo quando eravamo con i baracchini. Cazzo, ma il 48 è una cosa allucinante, guarda, io ho l'Airbex, però non li prende i colpi che prende quello lì. Sento un fruscio leggero leggero, ma di Antonello, gli altri assolutamente. Quella da 48 intendo la gente da volati rotti, allucinante. Perché sono macchine che prendono sguardo, bello. Quindi vabbè. Comunque, sono dire. Questo tipo ci avevo occupato. C'è anche blocca E quindi ci sono. Che sono in questo periodo qua, perché il contatto di 27, cioè, e questo qua non ha mai parlato, ascoltava e basta in macchina. Sicuramente, no, beh, quello più di Pinangelo Gianni già lo sa, lui lo usava, capito? Lo usava, però, mentre invece l'altra gliel'ho fatta vendere, l'altra grande gliel'ho fatta vendere e a me mi ha regalato il baracchino, il microfono, degli strumentini, delle cose, però l'altra gliel'ho fatta vendere, cioè non me ne importa nulla, io cosa, però è così, quando ti regalano una cosa se ci tieni la devi tenere, a me è la cosa che poi vai e te la vendi non mi va più bene. Prova con il microfono short, questo è il microfono originale, e questo là non è che si sentito qua? Prova! Ho detto, questo è l'originale. Ma guarda, va benissimo, è che c'ha poca potenza. Sì, Santiago 7, capito? C'ha poca potenza quella radio, bisogna tirare su la potenza e appena appena l'LC. E vedrai che funziona molto molto meglio. Sì, perché la modulazione è buona, è bella, solo che il segnale è troppo basso, capito? E quindi si sente un po' il fruscio. Se però il segnale lo tiri un po' più su, lo porti con la radio, si può portare sino a 10 watt e non li attacchi niente, lo lasci a 10 watt, le tiri appena su l'LC, microfono da tavolo ed è una ganonada. Sì, ma si vede che sta dando 3 watt, è come il mio ne dava 3 e mezzo modulati e Gigi me l'ha portato a 8 di portante bianca, 10 modulati ed è una canonata, è una canonata, è scemi, la modulazione è come questa. No, anche il mio, io l'avevo comprato nuovo, però da nuovi l'omologazione è quella, no? 4 watt, però il 48 si può portare anche a 10 watt. Sì, anche il mio è norma c'è, io l'ho comprato nuovo, 168 euro me l'aveva fatto pagare alla GBC da Mazza e nelle varie. Io sono andato alla GBC e mi ha chiesto 200 euro e gli ho detto, vabbè, non perché era internet, quanti di internet mi ha detto, non siamo anche lui. Io l'ho preso un po' di anni fa, magari adesso costa così, non lo so. 168 euro scontato me l'avevo dato al mezzolino. È nuovo e ce l'ho in concessione. Ogni tanto, anche quando stavamo facendo prove, l'ho attaccato, però non si buffa. Infatti tengo i camionisti da Saccardia, va vendendo dallo zinco. Ciao, ciao. ciao, ciao a tutti, ciao. Sì, è fuori mercato quel prezzo, ma è fuori lui proprio. È fuori il gabbo, è fuori il gabbo Edu, no, fuori mercato. Lui non si è mai adeguato al mercato. Lui vende a prezzi suoi e si dà bene la roba. Mica a me, quando sarà, boh, sarà 4-5 mesi fa, te l'ho detto, sono andato per comprare del cavo, ok, perché lo volevo regalare, del cavo. L'RG58 mi ha chiesto 2 euro a metro, ma gli ho detto, ma di cosa si fa vedendo? L'RG58 mi serve, sì, cartellone 213 quanto costa? 2,80 euro, cazzo, ma ci pago 1 euro io in continente, la Camilla, ho detto, Tony, ciao, non ci sono più passato. Sì, è allucinante, lui applica i prezzi di listino, sì. Guarda, solo Media Globe aveva fatto un'offertona qualche tempo fa, offertissima, l'Alan 48 nuovo, no, proprio in lettere, 48, 150 euro, spedizione compresa, ma è durato 2 giorni, se li sono presi tutti, e persino io ero tentato di prenderlo perché all'epoca non avevo l'omologato CE 40 canali, e poi l'offerta è passata e pazienza. Va bene, dai, buona serata a tutti, io sono collassato perché sono da stamattina andando e venendo. Ciao Franco, ciao Claudio, ciao. Ciao, ciao anche Claudio di nuovo, e ciao anche a te, Blanco. Ciao, ciao ragazzi, a domani, ciao ciao. Io ti sento. Buonasera, e allora? Ciao, chi sei? Eugenio? O Franco? Eugenio. Tutti magnani, so. Stanno tutti facendo il muscolo delle mandibole. Ma deve essere. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Sei sempre giù un po' rotore, sì? Sì, sempre a casa, cosa posso. C'è qualcuno sempre in frequenza, stanno entrando, sì. Come? Ogni tanto entra qualcuno? Sì, ma la sera c'è sempre gente. Perché sono io che gli orari che non cucino. Entri prima o dopo tu, in genere? Come ecco, scusa? In genere entri prima o dopo rispetto a questo orario? In genere non ce la faccio più di entrare, perché dove rientra a casa non ce l'ha nessuno. Quindi, ma quando sono libero, ecco sempre prima, adesso le 7 si permette. Da qualora già c'è qualcuno, allora dai. Prima delle 8 già c'è sempre qualcuno. Sì, sì. Entrano tutti 7 e mezzo. Capito. Poi lascia perché devo andare a far muovere le mandibole. Cazzo, c'è un po' di QRM, a volte ti disturba un po'. Arrivo fatto la sensazione. Io, insomma, ne abbiamo già parlato, ho l'antenna attaccata alla facciata, quindi non passa al tetto. Poi, specialmente verso quella parte lì, c'ho tutto il palato davanti, dai. Ah, allora anche troppo. Tu muovi da San Michele, giusto? Salvino di San Michele, che faccia? No, San Michele, del Sacro Cuore, dai. Il Monte Basso. Ah, ho capito, Sacro Cuore. Allora già va bene, se avrai l'antenna così, andrà giù pure. E l'antenna pure sul tetto, c'è poco da fare. Non c'è la possibilità di metterla sul tetto. Per adesso no, non c'è uscita sul tetto, dai. Bisogna togliere tutte le tegole per uscire. Mi ha copiato? Sì, sì. Ti ho sentito. Vabbè, fai la foresta. C'è un attimo. C'è una leggera. Mi chiedo, c'è una scarica enorme. Deve essere qualche pompa di calore, boh, quando l'attaccano, o quando si attacca, da. Come si le tappe sul fianco del palazzo? Diciamo così, però io sono nella parte bassa del palazzo, quindi l'antenna arriva, sotto la grondaia arriva. È una persona che forse l'avrà anche in altre condizioni, sarà anche bene. No, da quando ho messo questa ha cambiato molto, prima con l'altra, con la boomerang, sì, qualcuno mi ascoltava, ma dalle parti tue proprio nessuno. Adesso qualcuno mi ascolta. Ciao, vabbè, anche perché hai disturbato il microfono amplificato. Sì, sì, un vecchio microfono amplificato, là. Perché ci sento che la radio è... Abbiamo un po' aumentato anche dalla... come si dice? Dal trim all'interno. Ho aumentato un po' il watt, insomma, portato un po' quasi al limite, da. Aumentato anche il watt e basta? Sì, un po'. Questo adesso ne eroga 20 di portante, dai. Ma era già forte questo rispetto agli altri, no? Usciva con più di 10 watt. Adesso sono 20... modulati a volte anche 30. Ah, e allora per quello che ci usi con l'antennino? No, non è un antennino, l'antenna è grande, è che è attaccata al muro, tipo, come si chiama? Le tube per più viali, dai. Ah, ho capito. L'antenna è 7 metri, forse anche di più. Che antenna è? Una 50, una energy. No, questa l'ho costruita con l'aiuto di del progetto che mi ha mandato un amico, sempre da Giulio, quello di Lippunti, con una canna da pesca praticamente, già la conoscerai. Con la canna da pesca, ti ha fatto l'antenna? E praticamente l'antenna la puoi attaccare all'esterno, cioè sfrutti praticamente la canna da pesca per tenerti l'antenna. Poi l'antenna è costruita con cavi di rame e cavi coassiali di antenna, dai, quelli condensatori e cose varie, tutti ricavati dai cavi di antenna, l'RG213. Oh, questa è proprio fatta apposta per non disturbare, non ha radiali, c'è solo una bobina giù alla base. È una game master, se tu guardi su internet la trovi, c'è anche il progetto, c'è tutto, per costruirla. Devi solo avere una canna di quelle fisse che sia almeno 7 metri e poi gliela attacchi sopra quando il nastro è vulcanizzato, qualche saldatura in un'oretta la fai. No, va molto bene, non so come vada sul tetto, ma sicuramente andrà molto meglio sul tetto. Ma non si è sentito il profeta oggi? Non lo so, Gianni, ci sei, Gianni il profeta? No, sarebbe entrato. Ha chiuso poco fa. Sì, a rotta pignara, ciao Marco lì, anche voglia sentirti avevo. Sto dormendo qua sul divano, dai, un saluto festoso a tutti, ciao. Sì, era fino a poco fa, c'era Claudio, poi hanno chiuso loro e siete usciti a pizzo voi. Ciao, sentiamo. Ciao carissimo, fa piacere sempre ascoltarti intanto, dai, spero tu stia bene. Buona serata, buon tutto, grazie anche delle dritte che ci hai dato. Avanti, Eugenio. Ciao Marco, che sono stanco, sono tutto il giorno avanti e indietro, le mattine, il pomeriggio, di sera, basta adesso. Pensa che alle 9:30 devo di nuovo uscire. Come mai? Cosa stai combinando? Lavori a casa, no? Quelli avevi finiti, spero. Scommissioni sempre per casa, per la macchina, combattere a terra, andare al medico, tutte commissioni, fare la spesa, tutte commissioni, sempre roba di casa, sì, niente di eccezionale. Poi stavo preparando la roba per il mare, lavando costumi, asciugamani, per averla pronta, perché poi arriva il giorno bello e c'ho tutto ancora da mettere a posto, da preparare. Io domenica sono andato per la prima volta al mare, domenica, sentito un po' una caletta riparata perché c'era un po' di vento, diciamo, dove mi veniva dalle spalle, da ponente. E siamo stati benissimo, mi sono anche addormentato, figurati, avevo proprio voglia di rilassarmi. Avanti Eugenio. L'avranno chiamato, ma il bagno è fatto, perché io finché non ho l'acqua a 30 gradi, mi pare c'è anche Massimiliano all'ascolto, ciao Massimiliano se all'ascolto, se non ho l'acqua a 30 gradi il bagno non è bagno, mi si vede, inizio a fare il bagno ad agosto. 30 gradi, devi andare ai Caraibi adesso, fate neanche lì ci arriva, sì, 28 gradi ci arriva anche lì. No, non ho fatto il bagno assolutamente, neanche la muta avevo, quindi non ti so dire neanche com'è l'acqua con la temperatura, là, sicuramente è fredda ancora. Io magari a giugno l'ho tratto, sì, E la multa, la roba da sub, poi c'era ancora la lira quando l'ultima volta che sono entrato in acqua con la multa, c'era ancora la lira. Ragazzi, ci sentiamo più tardi, ciao! Ciao Eugenio, alla prossima! Anzi, ci sentiamo al furgone, il copia del furgone, dai, c'è la fatto, ciao! Se ti sento, non so, stai venendo verso Sassari? No, stavo verso Porto Torres. Vediamo, non so se ti sento allora. Dai, ci proviamo, ciao, ciao. Ciao. Quindi bagno ancora no, neanche in ultima quest'anno ancora. Sono da... anche voglia di fare qualche polpo così. No, no, no, non sono in condizioni fisiche e psichiche per farlo, assolutamente. No, no. Io meglio che non faccia niente di... casomai con la canna pesca, ma in acqua, immersioni no. Infatti ci butto tutto adesso, il poco rimasto, muta tutto, no, non voglio più niente, non è prudente, dai. Va bene, ciao Eugenio, buona serata, buon tutto. Io sono costretto a chiudere, devo preparare la pennetta per l'iniezione, dai. Fra, ma mio malgrado devo chiudere. Dai, sentiremo in migliore occasione. Intanto sto entrando qualche giorno sì, qualche mese no, non ne ho manco più voglia, dai. È incostante la cosa, capito? Cavo anch'io entro quando posso, quando ho tempo, quando ho voglia, quindi salutare qualche amico, fa sempre piacere, dai. Neanch'io non riesco ad essere assiduo perché proprio non posso. Comunque, per la parte psichica, anzi forse ti fa bene, perché a me quando io entro a bagno mi rilasso un sacco, solo vedere il fondale, poi logico, se non ti accompagna il fisico, purtroppo è un casino, dai. Alla prossima allora, se vuoi rientrare, se coincide già siamo qua. Via. Sì, bagno sì, ma immersione in apnea no, no, no, no, mai più. Prima che mi leggano sul giornale per quello. Vabbè, non mancherà molto comunque, dai, non vi perdete niente, dai. Dai, non essere così drastico, non li facciamo noi i conti, vai tranquillo, non comandiamo noi. Lo so. Ciao Fra, ciao, buona serata, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao, ciao, ciao. Ciao Marco, ciao, alla prossima. Vediamo un po' se mi sente Eugenio, ci sei?